Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Pronto? Chi è? Sono Vittorio Feltri. Buonasera. Ho letto e sentito delle dichiarazioni sconcertanti. Se mi fa la gentilezza di chiamare con un numero... con un numero quale? Perché se il numero parlo... è il numero di Milano, è il numero della redazione di Milano. Se non conoscete numero, perché non fate un cazzo lì un al sud, non ma ecco, ma che cosa fa? Non fate vade, niente al sud e risponde con volgarità. Io ho chiesto solo di parlare e di rendermi conto. Ma come si permette? Ma come si permette? Ma come se vada a lavorare lei? Vada a lavorare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Io non voglio essere più uccisa da questi fiduci politici improvvisati. Chi è Casalino? Uno che ha fatto Grande Fratello? Chi è Conte? Un avvocato qualunque che non si conosceva, messo lì, che non ha fatto mai politica. Mariella? Mi ha veramente colpito questo articolo di Libero. Libero scrive il 25 aprile, Liberazione è un bidone pieno di nulla, gli italiani non si sono mai veramente riconosciuti nelle celebrazioni del 25 aprile. Beh, mi sento di dire che parlasse per lui e per pochi altri. Cosa ne pensate? Ti capisco, amore, persona come te capisco benissimo. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E allora io non voglio essere più uccisa dall'Europa. Io non voglio essere più uccisa da questi fiduci politici improvvisati. Chi è Casalino? Uno che ha fatto Grande Fratello? Chi è Conte? Un avvocato qualunque che non si conosceva, messo lì, che non ha fatto mai politica. Chi è Di Maio? Un bibitaro. La la la la la la la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Di Maio, un bibitaro. Bibitaro. Chi è Di Maio, un bibitaro? My orders are sa police pati military pati mga barangay, shoot them dead. Sento un po', non c'è Conte, però io dovrei dire a Conte. Sì. Io ho fatto la guerra mondiale. Sì. E sono stato salvato. Sì. Adesso mi vogliono fare morire con il virus. Mi siete in genere che ho un nord, a casa non la da venire. Io tengo 83 anni, non sono morto durante la guerra, che scherzo. Tutti i ricoveri mi vogliono fare morire morto. Le chiacchiere stanno facendo, perché non hanno visto la guerra. Va non bene. Hanno visto la guerra. Va bene, signora. Cosa? Quando? Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione. Grazie. Qui dal bunker, via Monterosa, Milano, vivi e vegeti, avanti tutta, avanti tutta. Roma, via, vabbè non ve la dico, va. Quartiere Prati, solito bunker, protettissimo, protettissimo, più che mai, più che mai. E mentre ci si avvicina alla fine di questo cazzo di lockdown dal bunker del Mossad, David Parenzo. Eccoci. Buonasera, buonasera cari amici. Ho passato la giornata a ragionare sul recovery. No, sul, beh, anche, ma soprattutto a ragionare sul recovery fund. Su culo, tutto quello che sta facendo per noi l'Unione Europea. Comunque, buonasera cari amici. So che non ne parleremo, no. E quindi, buonasera. No, certamente, vabbè. No. Ho detto solo che ho passato la giornata a ragionare sul recovery fund. Ma non hai ragionato su un cazzo, no, dai, non hai ragionato su nulla. Su niente hai ragionato, no, nulla di nulla. Ho ragionato, ma tu cosa hai fatto tutto il giorno? Hai cercato mostri da innestare all'interno di una radio autorevole, questo hai fatto. Hai passato la giornata a cercare col lanternino o con la lanterna di Diogene, te la ricordi, no? La famosa lanterna, sì, di Diogene. Certamente. Cosa sei andato a cercare tu? Non quello che cercava Diogene, cioè la verità. La verità. La verità. Sei andato a cercare mostri. Mostri da portare in questo palcoscenico dalle 18.35 alle 20.50. Appunto. Appunto, appunto. Allora ragazzi, potete scegliere, come al solito la notizia che volete, a seconda se vi piace un virologo o ve ne piace un altro. Oggi il menù che cosa offre? Delle baggianate quotidiane o delle cose dette da uno è esattamente il contrario dall'altro. Per esempio, c'è un virologo autorevolissimo, io vorrei essere nelle sue mani, cioè vorrei che mi adottasse, che si chiama Crisanti, che ha risolto la situazione del Veneto più o meno. Professor Crisanti, Crisanti si chiama, vorrei che mi adottasse. Dov'è? Lo posso dire ufficialmente, voglio essere adottato da Crisanti. Potessi farlo, lo farei. Però il signor Crisanti dice, in un'intervista ovviamente diffusa urbi e torbi, che vabbè, il 4 maggio è sbagliato aprire e che i test sierologici che sono stati avviati per esempio da una regione che chiamasi Lombardia sono completamente inutili, bisogna fare più tamponi, ok? Siamo d'accordo? Al contrario, abbiamo che cosa? Volete prendere un altro infettivologo che dice il coronavirus ha perso potenza. Adesso arrivano pazienti con una complessità molto più bassa. Ragazzi, io non ce la faccio più. Prendete quello che vi parlo, ormai aprite i giornali, guardate i siti e sentite la televisione, ascoltate la radio, eccetera eccetera, e potete prendere la notizia che vi piace di più. Siete complottisti, per esempio? Siete gente che pensa che la Cina ce l'ha messo in quel posto e giustamente deve essere denunciata? Prendete le parole che vengono dagli Stati Uniti, del capo della diplomazia americana, il segretario di Stato, come sai che si chiama, Pompeo. I primi casi di coronavirus erano noti al governo cinese forse già a novembre. Ragazzi, oggi voi aprite qualsiasi sito, sentite qualsiasi cosa ed è una grande zanzara. Potete interpretare tutto come cazzo vi pare, potete prendere qualcosa ovunque, ovunque. Intanto in questo trambusto generale a Napoli e dintorni, non solo a Napoli, in tutto il meridione c'è qualcuno che pensa di portare in tribunale il signor Vittorio Feltri. Ora io voglio ancora una volta spiegare la situazione qual è. Il signor Vittorio Feltri ha pronunziato delle parole qui e successivamente dal signor Mario Giordano. Ovviamente in televisione le parole del direttorissimo hanno avuto grande eco. E vedremo, sentiremo anche le scuse di Giordano, perché Giordano, incredibilmente, caro Parenzo, ha chiesto scusa per le parole pronunziate. Mario Giordano, perché si è reso conto, è stato anche lui travolto dalla valanga. Ora io voglio dire una cosa, no, ma veramente pensate di denunziare non so dove Feltri, per che cosa, per quale, qual è il delitto, cioè qual è ma va abbracciato forte, come si fa con le persone in difficoltà, le si abbracciano forte, perché ha detto una stupidaggine. Dispiace che non ha colto l'occasione per dire scusa. Due parole, chiedo scusa. Il sindaco di Napoli vuole portare Feltri in tribunale per istigazione all'odio razziale. Ma digli che è un cretino, digli che è un imbecille, digli che è un ubriacone, digli quello che ti pare. Ma no, quello è offenderlo. A parte che già lo dicono, molti già lo dicono. Ma vai addosso, attacca, vai all'attacco. Ma cosa c'entra la cartuccella in tribunale? Perché tutti devono andare all'attacco sempre? Ma dai, ragazzi, all'attacco. Poi se ne pigliano all'attacco con le trasmissioni che lo ospitano. So che ci sono dei procedimenti. Ma che cazzo dite? Non scherziamo. Persone come Feltri, la libertà anche di sbagliare va protetta. La libertà di sbagliare va protetta. Va protetta e va assolutamente custodita la volontà, la possibilità di sbagliare, di dire il cazzo. Poi se uno si sente offeso, in questo caso i meridionali, da chi sono rappresentati? Da De Magistris? Ma che cazzo dite, dai? Lei vuole denunciare Vittorio Feltri, ma così ha detto lo farà? Me lo chiedono tutti i napoletani. Ma non tutti possiamo napoletani che... Perché? Cosa è successo? Io non... Beh, Vittorio Feltri ritiene nel suo cervello che i meridionali, i napoletani sono inferiori. Insomma, in questi tempi è possibile che noi dobbiamo ascoltare questi insulti quando gli italiani vorrebbero vederci tutti uniti? Feltri c'ha evidentemente un virus nel cervello, ma di altro tipo, è l'assenza proprio di cultura, perché uno che si rivolge ai meridionali dicendo che sono inferiori probabilmente non merita risposta se non la querela. Ragazzi miei, dai, io voglio dire una cosa, no? Cioè, gli è sfuggita di mano la situazione, ma no, ma non c'è Feltri. Avrebbe dovuto dire mi scuso, ho detto una stupidaggine. Tutta questa gente che vuole denunziare, a nome di chi? Denunziare cosa? Vedo che il Consiglio regionale della Campania hanno fatto una cosa, un ordine del Consiglio regionale della Campania per denunciare Feltri. Ma sono pazzi, è normale. Però scusa, non è normale che un direttore si esprima in questo modo rispetto ai cittadini italiani? I napoletani sono, fino a prova contraria, cittadini italiani come tutti gli altri meridionali. Ma chi dice il contrario? Ma chi se ne frega dell'oggetto della discussione? Ha detto una cosa, diteli che è un cretino, un ubriacone, basta. Che cosa c'entra le cartucce in tribunale? Le carte bollate in tribunale? Tu sei appassionato di queste puttanate, le carte bollate in tribunale? Ma per dimostrare cosa? Se uno poi viene offeso, ha diritto di difendersi in tutti i luoghi, in tutte le sedi. Ragazzi, su, non diciamo puttanate, dai. Ancora il sindaco di Lucera, Tutolo contro Feltri. Guarda, ragazzi, avete veramente rotto i coglioni. Non è manco quello che ha detto Feltri, perché ormai lo sappiamo che è un deficiente. È da un po', diciamo, che si mostra in quel modo. Ma il gioco, perché era un gioco quello. Con quell'altro, con quella faccia da cretino, perché non puoi definirla diversamente, un'altra faccia, una faccia di quella, è uno di quelli classici che noi definiamo, dice, quello faccio di scemo, no, quello faccio di scemo, che gli reggeva il gioco e che faceva quei sorrisini, come dire, complici, quei sorrisini quasi sfottenti. E così se lo potrà prendere nel culo anche lui, magari, se l'editore che lo paga lo manda a quel paese, lo manda a fare in culo, perché perde tutto il sud come spettatori e quindi la pubblicità che passa su quelle trasmissioni non la guarderemo, e chi paga e compra quegli spazi pubblicitari chiederà conto e magari lo mandano a lavorare, magari, a quella faccia di deficiente, no? Questo è un sindaco, però, ragazzi, eh? Cioè, tutto quello che è successo dopo la frase di Feltri, che va benissimo, per carità, sangue e merda, l'attacco, gente che risponde, per carità, è un godimento assoluto. Però Feltri ha detto una frase contestabile, poi gli è arrivata addosso una valanga, gente che lo insulta, la morte. Più di una frase, ragazzi, dai, su, ma non lo capite che è puro cabaret, che sta facendo divertire un sacco di gente? Cioè, tu non stai lo dicendo capite. Che Feltri. Tu stai dicendo che Feltri è un pagliaccio, è teatro, no, tu stai fa parte del grande cabaret della comunicazione, lo sai benissimo anche tu che è così, Vedete, se noi siamo convinti, noi li possiamo far male a quelli, far male non fisicamente ma ancora di più, cioè se nessuno di noi guarda quella trasmissione televisiva, se ognuno di noi del mezzogiorno evita di guardare la trasmissione televisiva, cioè da Roma in giù, zero, io vi posso garantire che a quello là lo mandano a calci in culo a pulire le scale. Tu a noi non ci prendi per il culo, tu hai detto che noi siamo inferiori e mi dispiace dirti che non hai nemmeno le palle per confermare quello che hai detto e che quindi devi trovare un modo per dire qualcosa di diverso, e lo fai male. Perché? Perché ci vuoi prendere per il culo la seconda volta. Lo diciamo qui, fuori dal coro, perché altrimenti non ve lo dicono. David Natania da Casa Parenzo. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Sì, io vedo molto negativo. È arrivata la ganja, è arrivata la ganja. La faccio più, ci voglio degli amici, ci voglio avere un contatto fisico, ci voglio scopare, basta, oh, basta. Ragazzi, grande onore però, grande onore a chi durante il Consiglio Comunale di Barletta, magari se c'è qualche audio ve lo facciamo sicuramente ascoltare, caro Parenzo, più avanti, Consiglio Comunale ovviamente online, in streaming a Barletta, in Puglia, e a un certo punto si è sentita una piccola frase hot, metti la gamba su di me che ti piace. Sostanzialmente qualche consigliere comunale stava scopando. Questa è la sostanza della cosa. Beh, sì, una voce bella cavernosa che diceva metti la gamba su di me che ti piace. Nel mezzo, che ti piace. Durante il Consiglio Comunale. Con tutti i consiglieri. Ma naturalmente! Ma dai, che funziona! Dai, che fa ascolto! Ma è, scusi, Francesco, ma il suo questo qua è un obiettivo incredibile. Supera la realtà. No, è la realtà. Errore, ormai ragioni naturalmente come la RAI, naturalmente mi fai disperare, naturalmente le telecamere ovunque dobbiamo mettere, naturalmente per togliere piccoli frame di realtà. Cioè, dici che non bisogna indignarsi perché c'è indignazione a Barletta. Ma qual è indignarsi? Indignarsi di che cosa? Bisogna indignarsi per Montalbano, dai, che fa tutte quelle indagini lì. Ma che indagini fa? Per quello bisogna indignarsi. Per la messa della domenica in televisione, ma non fa ascolto tutte le domeniche. Dai, ma come si fa? Dai. Tu dici la scopata in diretta durante il Consiglio Comunale a Barletta è un frammento di realtà eccezionale. Naturalmente una prospettiva meravigliosa di una nuova grande format televisivo. Quale sarebbe stavolta? Basta. Stiamo scrivendolo, stiamo ragionandoci ancora, naturalmente. Cosa pazzesca. Allora, ragazzi, vi faccio ascoltare questo piccolo audio del leader delle sardine, signor Santori. Ma questo interessa, questa vicenda è interessante. Sì, è una vicenda che tratteremo più avanti in maniera molto approfondita. Sì, molto approfondita. Allora, il leader delle sardine Santori, come sapete, non ha più un cazzo da dire. Nella sostanza dei fatti è questa la cosa. Qual è il messaggio oggi che può comunicare Santuzzo, Samminchia, quello che... Niente, nulla, zero. E cosa fa? Beh, un'idea di partecipazione. Niente. Dal basso, è fuori gioco, insomma, cioè, che cosa c'è da raccontare oggi? C'è il disastro del Covid. Uno come quello delle sardine può raccogliere dei denari, può fare può parlare di beneficenza, può fare volontariato, aiutare gli infermieri negli ospedali. Non avendo un cazzo da dire, Santuzzo, cosa fa? Non avendo un cazzo da dire, a un certo punto dice che l'ha chiamato il Papa. Dice: mi ha chiamato il Papa. Strano. Ma devo dire che non l'ho mai detto a nessuno, ma io, diciamo, Papa Francesco mi chiamò, o comunque chiamò me per esprimere apprezzamenti rispetto a quest'ondata di gentilezza ed educazione che avevamo riportato nel panorama politico nel momento caldo delle piazze. Ed eravamo rimasti d'accordo per incontrarci, perché quando il Papa ti chiama, se hai la possibilità addirittura di chiedergli un incontro, male non fa, e poi ovviamente tutto è saltato, però il fatto che ci sia un Papa che ti chiama al telefono e ti saluta, credo che sia, adesso è brutto da dire, però è tanta roba. Allora, il quadro è questo, cioè Santori rivela, capo dell'Eglise, di essere stato chiamato dal Santo Padre. Mi sembra strano un po'. Sembra un po' strano. Anche lui vero che il Santo Padre chiama, sai che il Santo Padre chiama. Sì, però chiama un sacco di gente. Non lo so, però per carità. Possibile pure, sai, un movimento che nasce, importante, le piazze, le cose. Certo. È così impossibile. Lui pensa che sia vero. Senti. L'assistente che mi ha detto: signor Santori, Mi ha detto il Santo Padre vorrebbe conferire con lei. E io sono sbiancato e ovviamente i primi 10 secondi ho detto vabbè, sarà uno scherzo, no, non è possibile. E invece poi dopo effettivamente... ho ascoltato tanto, ma era diciamo, probabilmente più il gesto in questi casi, no? Cioè il gesto di qualcuno che dice ho visto, mi sono accorto di voi. Si è accorto di loro il Papa, capito? Questa è la sua interpretazione, cioè l'interpretazione di Santoni e quella di Santuzzo è questa, mi sono accorto di voi, cioè ci sai siete. Sai che sento un po' di puzza io, tu senti puzza, io no. Non lo so. No, tu senti puzza, tu dici non ci credi. Io invece ci credo. No, posso dirci, mi puzza un po' tra due sta storia. No, a me non puzza per niente. Cioè, è assolutamente plausibile il fatto che a un certo punto il Santo Padre, abbia chiamato il capo delle sardine Santuzzo. Dice: scusa, fammi parlare con una persona popolare. Vabbè, e lo abbia invitato al solito a Santa Marta. Sì, abbia invitato a un colloquio. Il Papa incontra tanta gente, insomma, incontra anche persone, diciamo, non particolarmente raccomandabili, capi stranieri, eccetera, eccetera. No, e con un passato anche di un certo peso. Per cui non è impossibile che abbia chiesto a una persona che è in televisione, ha successo. Beh, incontriamoci, vediamo. Io posso anche crederci. Posso anche crederci. Vedremo. Però per carità, vedremo nel corso della puntata quello che succede. Vedremo. Porro sul 25 aprile, mettetemelo che voglio godere un attimo. Porro sul 25 per aprile. Liberare, dai, no, per un liberale. Porro. Adesso lo mettiamo. Pasquale da Torino, vai Pasquale, dimmi. Mi senti? Volevo dire che io la penso come te, Cruciano. La libertà di espressione deve esistere. Cioè, comunque. Nessuno la mette in discussione, infatti. Io posso tranquillamente dire che la razza di Cruciani è una razza bastarda da 100 generazioni. E sai che cazzo me ne frega a me? Tua madre era una voluta troia puttana vasta che faceva. Sì, ma lo puoi dire, ma guarda che no. Sì, ma guarda, a parte che la pratica. Solo un verme come te. Sì, guarda che. Sì, Pasquale, no, ma puoi anche dirlo tranquillamente. Il punto è che non ti querelo. Il punto è che io non ti querelo. Ma no, perché non mi interessa. Ma non mi interessa. Io dice che sei un bunker, no? A via Monterosa. Sì. Adesso ti sta bene il coronavirus. È un modo di dire, cretino. È un modo di dire, cretino. Ma la madre, dove batta ancora? Sì. Pasquale, guarda, il punto fondamentale che io. Aspetta, aspetta. Bastardo, figlio di. Sì, ma tranquillo, puoi dire quello che vuoi. Tranquillo, Pasquale. La differenza vera è che io non considero la prostituzione una cosa disdicevole e non considero nemmeno la pratica che hai attribuito a mia madre prima, cioè dire quella dell'ingoio, eccetera, eccetera, non la considero nemmeno una cosa così, diciamo, insultante. Per cui non bisogna non c'è... calmare gli animi. Ma no, non c'è bisogno di calmare sul nulla. Benzina, richiamate questo cretino. C'è un Carlo brutto da Roma. Clima, si è creato un brutto clima in questa trasmissione. Carlo da Roma, vai Carlo, dimmi. Ciao Cruciani. Dimmi. Senti, io sono un napoletano che vive a Roma. Volevo parlarti di, per quanto riguardava Feltri, e dire che io, e non sono sardonico, sono perfettamente d'accordo con il tuo concetto di dire che Feltri è libero di dire quello che pensa. Sono anche, tra l'altro, Feltri. Ma io, tra l'altro, non dico che uno non si deve assumere responsabilità di quello che dice. Uno si deve assumere assolutamente tutte le responsabilità di quello che dice. Dopodiché, mi sembra di poter dire che portare in tribunale uno può dirgli le peggio cose a Feltri, non mi interessa, va benissimo. A portare in tribunale una persona perché dice una cosa del genere sia una cosa un po' ridicola. Però va bene, ragazzi, ma fate come vi pare, ma che me ne frega a me? Cioè, mi sembra anche ridicolo attaccare le trasmissioni che l'ospita, un'altra cosa, illiberale totalmente. Cioè adesso non si può nemmeno più ospitare Feltri perché ha delle idee un po' balzane sui meridionali, certo, ed è così tranchant sui meridionali, o sul motivo per cui i meridionali secondo lui sarebbero inferiori, a parte che ha spiegato. Ma lasciamo perdere le spiegazioni, dai. Comunque io, che tra l'altro a Feltri l'ho conosciuto una quindicina d'anni fa, non ho capito la conclusione. Dico che secondo me Feltri è una persona intelligente, secondo me Feltri è uno che non ha bevuto vodka come tutti quanti dicono, ed è uno praticamente che, siccome non è uno stupido ed è uno che è un direttore di giornale, lui quando parla riflette il parere dei suoi lettori. per cui lui non è lui quando dice determinate cose. Può essere. Questo è più interessante. Steve da Modena, Steve da Modena, vai. Questo Steve. Purtroppo signor può Steve. Essere. Vai Steve. Sì, sono il famoso pugile. No, niente, secondo me non ha detto niente di così particolare. Ha fatto i classici discorsi da bar che senti dai vecchi di 70 anni qua da noi, ma in qualsiasi bar questo discorso lo trovi. Cioè, non mi sembra, solo che detto da Feltri, sembra che abbia detto chissà cosa. Cioè. Ma infatti Feltri fa discorsi da bar, fa un giornalismo da bar. Capito, esatto, ma qua al nord, bravo, se tu senti qualsiasi signore che parla delle persone meridionali, parla male. Ma adesso non esageriamo, non è così. Cioè, non è. Dipende in che ambienti, in che situazioni. Fermo che te richiamo dopo, dai Steve, che te conosco a te. Fermo che te richiamo dopo. Steve Ogongo. Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Giro a pie ma non è sopra il ciel che voglio un aeropla. Bimba attacca lascia pe. Roma è bella di Gerre. Culo sopra una lita. Quando la manda mon frère Ruben Sosa. Non tengo i piedi per te. Cose cose nell'età. Nella mia spra cucarraccia nelle scafrate. Sembra tua lì. E che cos'è? Sembra di stare a tua lì. E che cos'è? Sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a tua lì. Signorina, ma perché le pare che noi abbiamo l'aria da teppisti? Per carità, ma hai detto una cosa simile. Ma no, e che le sembra che siamo, signora? Ma no, niente. Perché non scendete dalla macchina? Non siamo mica a Tuarì. È che siamo in ritardo, dobbiamo lavorare, stiamo già sforando. Ah sì, state un po' sforando. E che vi serve? Una storia tutto sangue da far venire il vomito per montarci uno scoop. Ma la volete smettere? Sì, ma guarda mica la pianta a casa nostra. Puttana di una bianca di merda. Vattene a fa' culo tu. Calmatevi, ce ne andiamo. E tu che ti filmi? Guarda che stronzo. Non sei mica a Tuarì. Fammi una foto coi fra, fa la foto a Tuarì. Sembra di stare a tua lì, sembra di stare allo zoo, sembra di stare a tua lì, sembra di stare a tua lì. E che cos'è? Sembra di stare a tua lì. E che cos'è? Sembra di stare allo zoo, sembra di stare a tua lì, sembra di stare a tua lì. Ma andate a cagare, va, giornalisti di merda, va, siete delle merde, basta, fanno bene togliervi i soldi. Eccolo. Mani voglio un David Parenzo all'attacco, avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa, all'attacco David! Parenzo, mi hai sfrantumato i coglioni con questa recita, non sei il grande Gatsby che si fa servire dai suoi maggiordomi di colore, che ostenta ricchezza nella sua reggia. Devi ritornare con i piedi per terra, dove le persone resistono su un'ipotetica linea del Piave. Avanti tutta. Eccoci. Un poveraccio sta prendendo il sole, la polizia su quegli scooter. Strano, Davide, tu non abbia detto nulla sul titolo oggi del quotidiano Libero. Il quotidiano Libero, però tu vedi la pubblicità in questi giorni ovunque, anche gli edicolanti che non vogliono vendere Libero indirettamente fanno pubblicità a Libero. Ma sulla bocca di tutti, negativa, ma come sulla tu bocca sai, di tutti. Pubblicità positiva, titolo di oggi del quotidiano Libero: chi fuma non prende il Covid. Lo trovo straordinario. E sono anche degli scienziati, adesso hanno anche un pool di scienziati all'interno del giornale. la nicotina riduce dell'80% il rischio. Naturalmente qual è il punto? Che il direttorissimo fuma come un turco. Fuma, si diceva, esatto, piccolo conflitto di interessi. Piccolo conflitto di interessi del direttorissimo. Fuma, certo, come un turco. Si dirà, l'aperitivo protegge dal coronavirus. Il prossimo titolo sarà questo. Grande scoperta. Whisky. Ma io non lo so adesso. Ah, perché beve whisky? Beve tanto whisky? No, goccino. Lo stai dicendo tu, eh? No, no, sto dicendo. Sto dicendo che ogni tanto beve whisky. Ma come dire, è un delitto bere whisky? È un delitto bere whisky? Non ho capito. Però prima di mettersi alla guida, meglio no, non bere. Guida, non guida, lo sai che c'ha l'autista. Alla guida di un giornale, no, ma anche alla guida di un giornale. Ma lo sai quanti giornalisti ubriaconi ci sono? Ma tu lo sai quanti ce ne sono ubriaconi? Beh, giornalisti? Sai, magari dai, sì, ma non... Alcolizzati, vabbè, dai, ma di che parliamo? Dai, su. Ma poi non ho capito, uno non può andare al ristorante e bersi due dita di whisky? Non ho capito, qual è il problema? Ma perché? Perché tu stai dicendo che... Sia a pranzo che a cena, naturalmente. Tu quindi stai dicendo che a pranzo e a cena beve litrate di vino e whisky? Ho capito, no, ma no, no, ho detto litrate. Quindi Cruciani, l'amico di Feltri, beve litrate di vino e whisky. No, no, no, mai detto. Io tu ho detto che adesso. Non, ma non l'ho detto, cazzo. L'hai detto adesso, ma ti difendiamo noi con l'associazione a buon diritto di Luigi Manconi. Non ti preoccupare, ti difendiamo. Un'altra leccata di culo, dai. C'è un consigliere comunale a proposito di 25 aprile di cui non frega un cazzo. Ma tu sai almeno di che cosa si occupa a buon diritto? No, non me ne frega un cazzo di a buon diritto. Ma perché devi dire così? Fa un lavoro preziosissimo per la democrazia, va benissimo, però non mi rompe i coglioni con questa cosa qua. No, ma almeno sai che cosa fa, però un giorno possiamo approfondire il servizio che svolge o no? Io voglio parlare di figa, corso non hai capito, di figa, di squirting, una cosa non esclude l'altra, però adesso no, certo, infatti. Io penso che magari qualcuno in quell'associazione anche parlerà di questo, però primariamente si occupa di altro, grandi scopatori ci saranno sicuramente. No, questo non lo so. Ma sicuramente anche il signor Manconi sarà stato un grande scopatore. Questo, sicuramente. Ma come ti permetti? Ma sicuro, una persona serissima. Persona serissima, il presidente. C'entra? Io lo chiamo il presidente. Allora, scusami persona un attimo. Allora, come definisci? Ma un giorno possiamo dedicare 5 minuti a raccontare. Come definisci un consigliere comunale, credo, di un paese in provincia di. No, in Abruzzo, comunque, credo, Francavilla, una cosa del genere. Sì, sentiamo, che ha detto: comunque, cominciamoci ad organizzare il 25. Mentre voi cantate Bella Ciao, io vi faccio l'accompagnamento sbattendo il pisello sulla ringhiera. La ritmica è importante. Ma di che partito è questo qua? Del centrodestra, non lo so di che partito è. Beh, veramente, ma è un esponente delle istituzioni? Sì, consigliere comunale. Beh, a non Giulianova, a Giulianova, sì. E di quale e per chi ha votato alle elezioni? Ma non lo so. Però è in Abruzzo. No, dai, seriamente, non l'avevo visto questo. In Abruzzo? In Abruzzo, sì. Io vi faccio per l'accompagnamento sbattendo il pisello sulla ringhiera, ragazzi. Questo l'ha detto un politico. Un consigliere un politico comune, della che pare Lega, si voglia... della no, Lega. Non è della Lega, non lo so di che di quale cazzo partito è. Ti prego, verificami immediatamente di quale partito è. Sì, sì, sì, devo dire. No, ma questo è da mandare sul Gran Sasso per ricordare, diciamo, no? Il luogo dove fu. Possiedo anche il cellulare, caro David. Possiedo anche il numero di cellulare. Ecco, no, ma dico, questo qui va messo sul Gran Sasso a ricordo di Sua Eccellenza. Andrebbe messo lì sul Gran Sasso a ricordo di Sua Eccellenza. Sì, ma c'è anche la libertà di dire uno il cazzo che vuole, o no? No, cioè, no, non c'è no, un consigliere comunale che dice che tira fuori. Dai, no, non c'è questa. No, secondo me questa libertà non c'è. Secondo me, Allora, ragazzi, Margherita Romani. Margherita, una napoletana. Io la vorrei qua davanti, davanti a me la vorrei. Ti giuro, la vorrei davanti a me, questa Margherita. C'è la signora Margherita? Sì, sì. Ah, signora Margherita. Io sono qua, sono qua. Buonasera, come sta signora? Benissimo. Ah, benissimo, la vedo in grande spolvero. Senta, lei di quello che ha detto De Luca è d'accordo o no? Io non sono d'accordo, sono d'accordo con il signor De Luca. Allora è d'accordo? Ah, sì? E vorrei parlare anche con Conte. E che gli vorrebbe dire? Il signor Conte. Che gli vuol dire a Conte, signora? Non ti dico. Senti un po', non c'è Conte, però io dovrei dire a Conte. Sì. Io ho fatto la guerra mondiale. Sì. E sono stato salvato. Sì. Adesso mi vogliono fare morire con il virus. I cittadini che ho nord, a casa, non la da venire. Sì. Non la da venire, ma da far stare in grazie a Dio. Io che secondo me l'hanno scelta apposta questa Margherita in collegamento ieri, che non vuole che il virus arrivi al fammi sud. Indovinare, in quale trasmissione la signora Margherita ha potuto esprimere il suo il suo completo pensiero. In quale trasmissione? Sulla Rai? Su Rai 1? Sulla 7? No! Dove? Vabbè, allora, in quale trasmissione allora secondo voi? In quale trasmissione secondo voi si toccano queste vette altissime di informazione? In quale trasmissione? Mi tengo 83 anni, un giorno morto durante la guerra, che scherzo, sotto il ricovero mi fa morire mo. Quanti anni ha, signora? Non ammetto questo! Quanti anni ha? Non l'ammetto! Nudo che chiacchierano e chiacchierano! Sono stanca, ho paura! Quanti anni ha, signora? Basta. Quanti? 83 anni! Se li porta bene, però, eh! Ho visto della guerra, sotto il ricovero! E scheggio in capo! Capito, però che c'entra adesso? Perché questa ha paura di morire, giustamente, per il virus. Per il virus. Margherita, però... Però Margherita, non si agiti troppo, poi mi sta male. Ma io oggi ti ho fatto la guerra. Ho capito, ma non la devi fare stasera. Ho fatto la guerra, ho fatto io la guerra. Ho fatto io la guerra, io l'ho fatta. Allora ormai. Ho capito. Va bene, Margherita. La guerra mondiale, no virus, la guerra mondiale. Sì, sì, sì, sì. Hai capito? Sì, sì, sì. Teneva 6 anni, teneva. E mi ricordo come è mo. Me ne scondevo sotto il ricavo e buttavo nelle schegge in capo. Sì. Hai capito? Stanno facendo le chiacchiere, stanno facendo. Perché non hanno visto la guerra. Non hanno visto la guerra. Va bene, va bene. Come va bene? Le grandi inchieste, le grandi. No, posso dirti che la cosa più bella è quel signore, beh, lo dico senza ironia, di Del Debbio, che ovviamente non ha capito una parola di quello che. Va bene, signora, grazie. Ovvia, grazie, signora. Mi puoi isolare per piacere? Grazie. Come dire, vabbè, dai, basta, grazie. Isolatelo perché è meraviglioso. Meraviglioso. Vabbè, dai, grazie. Allora, c'era grazie, Steve, però. C'era continua. Steve. Dimmi. Allora, Steve, che cazzo vuoi ancora? Dimmi, Ogongo. Dimmi, Ogongo. Steve, che vuoi? Che vuoi, dimmi, Steve. Arruttato, avanti. Allora, no, era parte di meridionale. Allora non ho capito, che vuoi? No, il discorso era semplice, non aveva detto niente di particolare. Sì. Non ha detto niente di particolare, c'è gente che si è incazzata di questo stiamo parlando. Che il nord è più prolifico del sud, ma è un dato di fatto, cioè voglio dire, non è che... Cioè stai difendendo Feltri, questo è il punto, no? Cioè. Ma non, cioè sono 50 anni che c'è questa diatriba tra il nord e il sud, e Bossi, i discorsi che faceva Bossi non se li ricorda nessuno. Ma sì, lo sappiamo, e dunque? Certo. Voglio dire, non mi sembra niente da portare al processo uno perché ha detto che il nord è più ricco del sud. Questa diciamo che è stata l'interpretazione successiva, diciamo. Ma perché hanno la coda di paglia, si sentono sempre chiamati in causa a qualsiasi cosa che gli dici, e dopo sono teatrali, dai, li conosci anche te, tu sei un romano del cazzo, lo sai benissimo. È arrivato quello, Steve da Modena, è arrivato dai, Steve da Modena, Steve, fermo. Hai sentito che cosa ha detto Steven Ogongo? David, quanto mi ami, dillo a tutto il mondo, tutta la vita. Matteo! Booked as a boat rider, as his father and his grand. I'm working in a boat, you're building on the river Thames. One day chip was hard at work, the devil appeared from here. He had a roll of copper and a bucket of blood and nails. The devil said and the chip. Ascoltando il podcast di ieri, no, Cruciani, a sentirti difendere Feltri in questa maniera non ti si può sentire. Pronto a rinfacciare a chiunque chiami che almeno Feltri ha diretto un giornale o dirige un giornale, se lo vogliamo chiamare così. Se lo vogliamo chiamare sia dirigere, visto che va in giro a bere e basta e poi sparare cazzate, e se quello che dirige lo vogliamo chiamare giornale, visto che è carta da culo. Guarda che dirigere qualcosa di per sé non è un merito. Innanzitutto non merito per Feltri, perché è cresciuto in anni in cui il 2% della popolazione italiana probabilmente poteva andare all'università, quindi è solo un privilegiato di sto cazzo, o ha avuto molto culo come d'altronde te e Parenzo. E seconda cosa, dirigere qualcosa di per sé è abbastanza neutrale, altrimenti anche Hitler avrebbe grandi meriti, anche Totorina avrebbe grandi meriti, entrambi grandi dirigenti come Feltri, un po' meno innocui ma probabilmente anche meno coglioni di Feltri. Vittorio Feltri. A chiappa. I say to my master and I get you chip. I let me goes a bit. Beh, caro David, c'è molta rabbia nei confronti di Feltri, al sud c'è molta rabbia. Che cos'è qua? Che cos'è? C'è molta rabbia nei confronti del sud, moltissima rabbia. Molti sono incazzati anche per alcune parole pronunciate nei giorni scorsi dal ministro Bellanova, che ha detto che è un doveroso dare il permesso di soggiorno di 6 mesi agli stranieri, a quelli che sono irregolari, a quelli che vanno a lavorare nei campi, eccetera, eccetera, perché ci serve, ha detto, perché così sono più sicuri, certo, eccetera, eccetera. Certo. Certo. Il permesso di soggiorno. Giusto. Donato, giusto. Dove sei Donato? 600.000 persone da regolarizzare. Ricordiamo che il governo Berlusconi, ministro dell'interno, e non lo vuoi ricordare? Ma non ti preoccupare, sì, ricordo, non lo vuoi, la più grande le uniche certamente sanatorie in questo paese le hanno fatte i governi di destra con Maroni, ministro dell'interno. Ma cosa c'entra? Allora tu, se hai coraggio, e soprattutto non ti devi preoccupare perché lo scudo giudiziario te lo mettiamo noi di a buon diritto, dovresti dire che le più grandi sanatorie di migranti, sì, dovresti dire, perché è un fatto, che le sanatorie le hanno fatte i governi di destra, le più grandi sanatorie. Nel nostro paese c'è lo stato di emergenza, a queste persone è doveroso dare un permesso di soggiorno stagionale di 6 mesi. Certo. Donato, certo. Dove sei? Ma ecco che lui che chiama Donato, lo chiama. Dove sei? Cosa? Ma perché? Cosa? Dai, su. Adesso ti perché tu sei contrario, mi pare di capire. Io le sanatorie in generale sono quasi sempre contro a qualsiasi tipo di sanatorie. Mai che prenda una posizione coraggiosa. Sempre una posizione che liscia il pelo al sentimento comune. Sempre. È tornato Don De Capitani. Te lo ricordi, il grande nemico salviniano? Sì, tu non sei mai duro con De Capitani. Sì, ogni tanto lo critichi perché amato. È un pre. No, non mi piace per niente. No, non mi piace. Tu non lo attacchi mai fino in fondo. Non mi piace quel che dice nei confronti dei Salvini. Pensa che cosa dice: tre cancri lombardi. Non mandarlo in onda, brutto. I tre cancri lombardi, diciamo milanese, tre cancri, la Lega e il secondo cancro Comunione e Liberazione e poi il terzo cancro Berlusconi, no? Quello lì è veramente un cancro in tutti i sensi, è un virus che ha rovinato la testa agli italiani. Virus nato da questi tre cancri. Ma come cazzo si fa, De Capitani? Su, dai, ma che cazzo vuol dire? Il virus è venuto fuori da questi tre cancri. Ve lo dico uno scienziato che si chiama Don Giorgio. Don Giorgio, senti. No, uno scienziato che ha scoperto. È venuto fuori da lì. Cioè, io credo che lui voglia dire il virus si è, come dire, propagato grazie al dominio territoriale, politico, diciamo, di queste tre entità in Lombardia. Vabbè, l'impero romano e la chiesa hanno fatto più morti del virus. Però il virus si è dimenticato, forse si sta dimenticando di una cosa. Sì, ha creato e sta creando casino, paure, ma cosa ha fatto finora in confronto a quello che ha fatto gli imperi? Pensate all'impero romano, quello che hanno fatto le religioni, tutte, la chiesa, l'inquisizione, guerre di religione, morti, milioni. Va bene, abbiamo credo in linea Tiziana, che dovrebbe essere l'edicolante che ieri e l'altro ieri, non mi ricordo quando, ha espresso delle critiche molto forti nei confronti del direttore Feltri, no? Tiziana, sei dalla Calabria? Sì, io sono, sì. Come stai, cara Tiziana? Dimmi tutto. Ma oggi sto una bomba, sto benissimo. Che è successo? Quante copie di libro hai venduto nella tua edicola oggi, cara Tiziana? Ma purtroppo io non purtroppo io non lo vendo libero perché non ha richiesta di acquisto. Cioè, non lo vuole comprare nessuno praticamente libero da te. Nessuno. Non è una questione. Vabbè, mia. Adesso ti richiamiamo. Vincenzo da Napoli, intanto vai. Vincenzo nessuno da Napoli. Lo compri. Vincenzo, vabbè. Dimmi. Vincenzo, Samuele da Firenze, vai. Vabbè, ragazzi. Samuele ciao, da ragazzi. Firenze. Dimmi, Samuele, dai. Allora volevo dire, ma è possibile che sono 3 giorni che il problema di questo paese è diventato feltri? No, ma è ridicolo, dai. Feltri. Ha detto una minchiata come l'avrà detto 1,5 milioni nella sua vita. Ma il vero problema di questo paese è dobbiamo sapere i soldi dove sono, che c'è gente che non ha preso i soldi ancora. No, ma soprattutto ci sono moltissime imprese che non gliene frega un cazzo di andare a indebitarsi ancora alle banche, capito? Cioè, questo è il punto fondamentale. Ci sono pochissime richieste, pochissime, perché hanno capito che è una mezza trappola e dunque non lo faranno. Allora, mettetevi d'accordo, ci sono poche richieste o non hanno dato i soldi? Il contentino alle imprese? Dai, facendo il contentino alle imprese per poi farsi pagare tutte le tasse nei mortacci loro. Allora, tu che cosa sei? Piccolo imprenditore? Hai un'azienda, partita IVA, disoccupato, morto di fame? Gestiamo un'azienda di sicurezza. Hai ricevuto qualche euro fino adesso? Zero. E lui? No, ma non ho capito. No, lei è un lavoratore dipendente? No, lei è un lavoratore dipendente o autonomo? Questo non ho capito. No, io sono attualmente dipendente, prima ero autonomo. No, ma posso allora, dirti, se è dipendente avrà la cassa integrazione, immagino, spero. Ancora zero. Non l'ha vista, perché si vede che l'INPS o le regioni non l'hanno girata. No, ma voglio dire una cosa a Samuele. Samuele, devi sapere che qui di fronte è un signore che domani si è fatto ordinare un lauto pranzo a base di pesce da un noto ristorante di Anzio. No, il bianco ce l'ho a casa, quindi lo metto in frigo e non lo ordino. Cioè, mentre Samuele da Firenze praticamente in mezzo a una strada non riceve soldi da Samuele, non posso fare nulla per Samuele. Il signor Davide Parenzo, ma tu non mangi, dov'è il crimine? Non è che dicono questo andando al supermercato. Vado al supermercato sempre, ma una sera volevo fare una cosa un po' particolare e quindi da Anzio, siccome svolgono questo servizio e voglio aiutare, come direbbe Salvini, i ristoratori di prima categoria, aiutarli, perché i ristoratori sono in crisi, collaboro nel mio piccolo facendomi portare, come il servizio che svolgono è quello. Molti ristoranti a Roma ti portano la pranzo e la cena a casa, chi può lo faccia. Sei aiutiamo i ristoratori. La stai trasformando aiutiamoli in questo modo. Ciao, mentre ciao. Cruciani vuole farli chiudere. Ciao. È normale. Allora, credo si senta meglio Tiziana, che oggi dice di essere una bomba, di stare una bomba dopo aver attaccato fortissimamente il signor Feltri, anche da noi ieri sera, in un mezzo trucco, diciamo. Tiziana, allora dimmi. Allora, io come vi dicevo sto una bomba. Copie di libero non ce n'hai? No, zero. Ce l'ho perché non me l'ha chiesta nessuno. Non te lo chiede nessuno, ma non ho capito. No. Non ho capito perché ce l'hai tanto con signor Feltri, perché dovrebbe ma chiedere in un scusa. Anno quante copie ma vende allora, lei? Diciamo, in un anno zero, in genere quante non copie ha vendita, vende? Libero non ha vendita purtroppo, e ma non dipende da noi edicolanti. Ma non è vero, dai, su, ma è un giornale che ma glielo mandano però, glielo mandano sì, o no? Non mandano, le arriva neanche. Sì, sì, perché visto che comunque percepisci dei soldi dallo Stato, comunque deve andare in edicola il giornale. Ho capito, ma in un anno ne avrà venduta una copia in un anno? Non lo so, dovrò farmi dire dal mio agente, dalla mia agenzia, lo farò questo resoconto e te lo darò. Però ecco, mi interessa, sì, dimmi grazie. Tiziana, dimmi, okay. Che mi volevi dire, dimmi. Allora, tu sei Cruciani? Sì, sono Cruciani, dimmi. Allora, io ti volevo intanto ringraziare dello scherzo di ieri. Sì, ma è stato molto divertente. Tu hai attaccato Feltri a sprombattuto. Aspetta. A parte se io attacco meno Feltri. Allora, però, io mi sarei aspettata che comunque tu dopo mi avresti detto che era uno scherzo. Vabbè, ma che te ne frega, Tizia? Dai, su. E allora, aspetta un attimo. Adesso però ti devo fare parlare con mio figlio perché ha bisogno di parlare con sì, te. Sì, vabbè, domani. Perché lui mi ha aiutato a fare il post. Ah, ok. Scusami, perdonami. Parlo con Cruciani, vero? Dimmi, amico mio, dimmi, sì, amico sì. Mio. Dimmi. Allora, senti, scusa, io non voglio contestare quello che fate in questa trasmissione, io manco la conoscevo. Allora, ma che vuoi? Non ho capito che vuoi, no, dimmi. No, è che posso parlare un secondo senza che mi interrompi? No, ma devi stare tranquillo. Qual è il punto? Ha chiamato tua madre. Abbiamo fatto una cosa divertente, punto e basta. Finita no, lì. No, ti spiego. Ma che c'è da spiegare? Cosa allora, c'è da spiegare? Perché è stata divertente, ma purtroppo sentire mia madre che ieri torna a casa tutta spaventata, perché ovviamente sentiva che l'aveva chiamata Felsi, ovviamente una cosa fuori dal mondo, che sarà mai Feltri, ha combattuto come una leonessa, ho capito, ma non è la procura della Repubblica, però devi capire che in quel momento lei era molto spaventata. L'abbraccio fortissimo, abbraccio lei, fortissimo, abbraccio fortissimo. Te no, l'abbraccio, scusami, ti posso dire soltanto una cosa ti dico, perché tanto io non mi interessa di parlare con te, di darti neanche Perché hai chiamato? Scusa. Io ti ho chiamato perché la tua trasmissione, ieri l'ho sentita per 2 ore, mi avete fatto letteralmente cagare. E chi se ne frega? Questo va tenuto allora, in considerazione. Non parlare della gente però. Che non lavora, perché tu sei il primo. Ma chi ha detto? Momento. Ma era finta, era uno scherzo quello che non lavora. Ma non me ne frega un cazzo che era uno scherzo. Tu dicevi gente che non lavora. Ma chi l'ha detto? Era uno scherzo. Era la presa in giro di Feltri, non hai capito, no, un cazzo. Lo so benissimo. Scusa, allora fermo un attimo. Tiziana, scusami, il testo inventato al momento era la presa in giro, il paradosso di Feltri. Era esattamente l'opposto. Cioè, Feltri che ho preso in giro attraverso l'imitazione, guarda, che usa dei luoghi comuni stupidi parlando dei meridionali. Allora, posso dirti una cosa? Si chiama ironia dal greco. Allora, io sono il primo ironico perché tua madre è sicuramente una grande lavoratrice, tutto il nostro appoggio, la abbracciamo fortissimo come abbraccio te, non c'era nessuna ironia sul fatto che lei lavori poco, è un'ironia su Feltri. Poi ognuno c'ha le sue opinioni. Tua madre, l'abbraccio, è una grande operaia e lavoratrice, l'abbraccio e vi abbraccio tutti, ciao. Va amico bene, mio, grazie, ciao, mi ciao, sapere questo, ciao, ciao, ciao, ciao. È giunta l'ora di svelare. Io, ragazzi, non volevo, vi assicuro che non volevo. Cioè, non avevo voglia di svelare questa cosa qua. Perché poi quando abbiamo fatto quella telefonata, caro David, ti assicuro che io non l'ho mandato in onda. Perché non quella a Feltri. No, la gente non capisce. Allora, oggi... dai, didascalico, semplice, soggetto verbo. Dai. Allora, cosa è successo? Dai. Era a gennaio. Anzi, partiamo dalle parole di Santuzzo, il leader delle sardine. Lui lo ha detto. Io me l'ero pure dimenticata questa storia, l'avevo completamente eliminata, dimenticata. Santuzzo, leader delle sardine, ormai anche lui dimenticato, peraltro, perché non, evidentemente per questo, proprio perché è dimenticato, ha voluto rivelare questa cosa qua, cioè che l'ha chiamato il Papa. Sentiamo solamente il fatto: mi ha chiamato il Papa per esprimere apprezzamento. Devo dire che non l'ho mai detto a nessuno, ma io, diciamo, Papa Francesco mi chiamò, o comunque chiamò me per esprimere apprezzamenti rispetto a quest'ondata di gentilezza, educazione che avevamo riportato nel panorama politico nel momento caldo delle piazze. Poi ha detto che un papa che ti chiama tanta roba, pensavo fosse uno scherzo all'inizio, invece è tutto vero. Poi successivamente ha fatto delle dichiarazioni al Corriere della Sera, anche stasera, dicendo: beh, ma sicuramente la telefonata è vera, all'inizio mi sono un po' emozionato, certo, chiama il papa, il suo gesto vuol dire che mi sono accorto di voi, è fantastico. È tutta una cazzata, ragazzi, è tutta una minchiata, eravamo noi, siamo stati noi. Siamo stati noi, io non lo volevo nemmeno, cioè era inutile questa roba qua. Me l'ha offerta su un piatto d'argento Santuzzo oggi. Dobbiamo noi smentire il Papa? Fino adesso non ha smentito, la Santa Sede, il Vaticano non hanno detto nulla. Non possiamo essere noi a smentire il Papa. Insomma, smentisco che non è vero. Come fai a smentire il Papa? Ragazzi, finora è uscita fuori oggi, non frega a nessuno, perché non frega un cazzo a nessuno. È uscita fuori che cosa? Che il Papa ha chiamato Santuzzo. Ah, grande telefonata, apprezzamento, appuntamento. E poi lui dice: beh, sai, poi è successo che c'è stato il coronavirus e dunque non ci siamo potuti incontrare. Non è vero, no, non vi siete come diceva qualcuno, non è vero falso. Niente. Chi è che diceva? Non è vero niente. Non Manuel non Fantoni, niente. Manuel Fantoni in un fantastico film con Verdone. Non è vero niente. Siamo stati noi a chiamare Santuzzo a gennaio. Noi, il nostro straordinario imitatore, signor Andro Mercù, nei panni del Papa, Oltre ha per... fatto una telefonata in cui Santuzzo effettivamente dice poche parole. Però e alla c'è fine, cascato con tutte le scarpe. Sì, ma non è che. Sì, c'è, ma lo dice lui che c'è cascato. Perché secondo no, me. Oggi abbiamo scoperto oggi che c'è cascato con tutte le scarpe. Ma è incredibile, io pensavo non ci fosse nemmeno cascato. Invece lui però l'ha voluto rivelare. È una trasmissione incredibile questa qui, dai. Secondo me. Senti. Mi spiace. Pronto? Sì, buonasera, qua la Segreteria di Stato Vaticana. Parlo col signor Mattia Santori? Sì, sono io. Sì, buonasera, il Santo Padre desidera conferire con lei. Certo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, signor Santori? Sì. Spero di non disturbarla. Volevo dirle che apprezzo molto quello che sta facendo col suo gruppo. Per il mio ruolo di Papa io devo essere super partes. Sì. Ma lei conosce le mie posizioni sui migranti e sulla ospitalità, vero? Come faccio a essere sicuro che non sia uno scherzo? Guardi, non posso darle questa certezza, le posso invitare un giorno a Santa Marta. Prendiamo appuntamento con la segreteria e mi può venire a trovare. Volevo dirle solo che c'è troppo odio, troppo populismo. E mi sembra che lei e il suo movimento siete sulla strada giusta. Lei conosce, vero, le mie posizioni sulla migrazione, sull'accoglienza. Lei Santori è credente, se posso chiederle? Sì, ci provo. Perché la fede aiuta, soprattutto in questi momenti in cui c'è troppa istigazione all'odio. E mi pare che il vostro gruppo, ci sono molti giovani, vedo, è importante che ci siano giovani. Lei è anche molto giovane, quanti anni ha? 32, non sono così giovane. È importante che persone come lei siano a favore dell'accoglienza, sì, e contro l'odio, l'odio razziale. Mi sembra che siano queste, come dire, i vostri punti cardine. Sì, in qualche modo sì. Lei mi ha detto che è credente e quindi io semplicemente pregherò per lei. Certo, volentieri, sì, grazie. Pregherò per lei, per il suo movimento, e che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. Ok, grazie mille, la ringrazio molto. Le auguro buon lavoro, arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora, questa è la telefonata. Allora, c'è una... Avvenuta quando, ricordiamolo, gennaio. Subito dopo c'è un signore che è il segretario, ovviamente non è vero, il segretario di Stato Vaticano, un componente della segreteria di Stato Vaticano. Noi finiremo che in galera, io lo so. Mercù, noi finiremo nelle galere Mercù. Vaticane. Finirai nelle galere vaticane, nelle spelonche vaticane. Quando sarai nelle spelonche vaticane ti ricorderai di a buon diritto e dirai ancora, e mi telefonerai perché io sarò fuori, perché io sono legatissimo al Vaticano e quindi e tu sarai in galera giustamente, ma io ti verrò a trovare e tu mi direi: David, ti ricordi quell'associazione di cui certo mi punto, a un certo punto, ragazzi, io veramente ve lo dico, perché oggi io sono intervenuto, devo intervenire perché il Vaticano fino adesso non ha smentito, dunque smentisco, mi metto dalla parte del Vaticano, del Papa che viene in qualche modo sbandierato con una telefonata. Santo Padre, ma ti pare normale che il Vaticano ancora non abbia smentito? Che fanno, diremmo. Ma ho capito, ma ti pare normale che il Vaticano finora non abbia smentito nulla? Cioè, qui ai 4:20 uno dice: mi ha chiamato. Ma non ha bisogno di smentire, che deve smentire, ma magari. Non è che stanno tutto il giorno a vedere cosa fa il Santo Padre, no? Non è che stanno tutto il giorno lì a vedere cosa fa il Santo Padre. È pazzesco, dai, è pazzesco. Comunque poco dopo chiama un signore per fissare l'appuntamento. E lui è ingaggiatissimo, è carichissimo, signor Santuzzo. Comunque sono efficienti della Segreteria Vaticana. Una cosa pazzesca, dai. Cioè sono molto veloci, pazzesco, oggettivamente. Pazzesco, pazzesco. Pronto? Sì, sono di nuovo Monsignor Franchi della Segreteria di Stato Vaticana. Avete visto che non ha passato? Prego? No, mi aspettavo che il Santo Padre mi ripassasse lei. Mi ha pregato di richiamarla per questo invito a Santa Marta. Ah, volentieri. Se per lei va bene, ci sono due possibilità. Mercoledì 8 aprile ore 7. Oppure mercoledì 8 aprile ore 7. Giovedì 23 aprile sempre alle ore 7. Quindi 8 aprile o 23 aprile ore 7. Sì, la prima possibile è l'8 aprile, prima il Santo Padre è occupato. Perfetto. E nel caso con chi posso comunicare? Le lascio la mia mail. Guardi, mi lasci pure la sua mail, io ho il suo numero, quindi possiamo senz'altro richiamarla, ma le faremo un invito formale via mail. Ma eventualmente questo invito è esteso anche agli altri tre fondatori o sono... Ma guardi, le faremo... Giulia, Roberto e Black sono i tre con cui abbiamo... Va bene, le faccio sapere. Okay, domani credo che riparlo con il Santo Padre, quindi le faccio sapere o con via telefono o via mail. Perfetto, la ringrazio molto. Grazie a lei, buona giornata. Arrivederci. Ma nel caso posso portare anche tutti? Nel caso no, ma posso scusa, portare... ma perché ha due date? Non è che ha due date, il Papa ne ha una. Non può avere due date. Dai, due date, ma com'è possibile? Il Papa cos'è, un ristorante, il turno A, il turno B, dai! Ma che roba è? Ma il Papa non ha due date, non ha due date, le proponiamo due slot. Ma appunto ma per questo è il Papa... Ma dai, che non funziona così, dai. Ragazzi, io dico come io, cazzo. Sarà che fa? Io conosco solo gente impegnatissima. Non è che un amministratore delegato di un'azienda mi dice: guarda, io ho due date. Ma no, una ce n'è. No, poi ma col io Papa. Voglio dire una cosa, no? Io voglio dire una cosa. Va bene tutto, tu puoi anche crederci, ma perché cazzo lo devi dire adesso ad aprile? Beh, però è stato ma un perché? Bellissimo gesto invece ma quello perché di, lo devi di dire? Santori, perché di mi hai posso portare anche gli altri fondatori del movimento, bellissimo. Questo invece è chapeau a Santori, ma, che non ma, si è ma tenuto chapeau che cosa? Che per avere... stretto, ma scusami, ma ha voluto condividere che sugli altri allora, compagni di viaggio l'emozione e l'esperienza. No, ma se non sbaglio, nella prima che sciapocca, nella prima telefonata, se non sbaglio, magari l'abbiamo tagliato, non lo so, magari poi lo rimettiamo. Ah, perché voi tagliate, No, ma quando voi sono tagliate, cose inessenziali, cucite, quando sono cose inessenziali. Ma non è bello no, quello che fate. Ma che tagliate come fate? Voi non è bello quello che fate, che tagliate e cucite, no, nella prima l'hai ammesso, ecco come funziona la zanzara, tagliano e cuciono. No, nella prima telefonata, credo che a un certo punto il Papa gli abbia detto: beh conto sulla sua grande riservatezza, cioè questa cosa qui non deve uscire. Tac, tre mesi dopo, subito rivelato, sbandierato i quattro venti, ragazzi. È incredibile. Davide da Ferrara, vai, incredibile. Davide. Pronto? Dimmi. Perdonami per quello che sto per dire. Allora, visto che hai parlato prima di Feltri e del suo cabaret, se io adesso dicessi che Parenzo è un ebreo di merda, starei facendo cabaret a caso? Ma no, ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Ma tu stai facendo, ma dipende chi lo dica. Verrebbe denunciato. Giustamente, esatto. Per cui è istigazione al razzismo dire che i meridionali sono diversi. Come dire che Parenzo, allora, che se dicessi che Parenzo fosse l'ebreo di merda. Davide, non diciamo puttanate. Sai, ti chiedo le ma va benissimo, ma vai in tribunale, Le figurine che i tuoi amichetti razziali con la maglia di Anna Frank e la maglia della Roma. Cosa è cabaret anche quello? Ma cosa c'entra? No, stai paragonando due cose assurde. Stai paragonando due cose. Andare allo stadio sotto la curva di follia, ma tu puoi fare quello che vuoi. A me che cazzo me ne frega? A me puoi urlargli viva Anna Frank perché loro vengono con ma tu puoi fare quello che vuoi, Davide. Io non sono amico di quelli che vanno a fare queste cose. Davide, sempre. Davide, sempre. Davide, aprile. Ma certamente, ma tu puoi dire, ma tu puoi dire quello che vuoi, ma a me che cazzo me ne frega, scusa. Ha fatto istigazione a razzismo. E vallo a denunciare, vai alla procura della Repubblica e fai una denuncia se sei così indignato. Ma la gente andarla a denunciare. Sì, è un diritto della gente. Quello che vuole. Non è che ma chi ha detto che vuole, non è un diritto? Poi... Ho detto che per me buttarla sulle ho detto che a menarla che addirittura dici che cabaret? Tu non disti, secondo me è puro cabaret quello che avviene in alcune trasmissioni, anche in questa. È puro cabaret. Di merda, sto facendo cabaret anch'io. Ma è diverso, dipende come lo dici, naturalmente. Ah, è diverso, no? Quindi tu decidi se è cabaret o no. Ma io ripeto, ma ho detto secondo me, ma ho detto secondo me. La resa da tifoso della Spal, andare a urlare viva Anna Frank sotto la curva quando gli abbiamo fatto il secondo gol. Ma che vuoi da me, scusa? Ma che vuoi da me, scusa? Siete cosa? Ma siete cosa? Ma che le persone sono le singole persone, non sono identificate da una fede calcistica, imbecille. Che poveraccio che sei. Ma sei un povero imbecille, lascia perdere. Ma tu sei un povero imbecille che non sai fare altro che offendere, perché non riesci a reggere discorsi. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. No, come no? Ti sto rispondendo. Come no? Che reggi discorsi? Fermo, fermo. Ma dell'erba! Qualcuno ha dell'erba! Te! Ti prego! Ne ho bisogno! Erba calabrese, produzione propria. Qualcuno ha dell'erba! Te! Ti prego! Ne ho bisogno! C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ma è una festa di laurea. Ma fatela fra 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Qualcuno ha dell'erba! Ne ho bisogno! Io ritengo che sia arrivato il momento per chiudere tutto e militarizzare l'Italia. Supposing we hit the body, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute, and is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? No, è possibilissimo. Poi le fake news girano in rete, secondo i media italiani, secondo i maggiori giornali e televisioni italiani, Trump ha detto che bisogna iniettarsi la candeggina nelle vene. Trump ha detto la candeggina nelle vene, siete buffona siete, a Trump non l'avete potuto vedere mai e Trump ve l'ha messa in culo e ve la continua a mettere in culo ogni giorno, questo è poco ma sicuro. E Trump smaschererà tutto questo bluff, grandissimi figli di puttana di tutti i giornali italiani. Siete dei servi, fate schifo, fate proprio pena. Il grillino palermitano ha veramente rotto il cazzo. Barisoni gay. Sgarbi sgarbi al Parlamento oggi, sgarbi al Parlamento oggi. Comunque ragazzi, ripensavo ancora alla roba di prima, di Santori, Santuzzo eccetera, è veramente incredibile. Ma perché tu dopo 3 mesi, 4 mesi dai fatti, da quella telefonata archiviata nel nulla, almeno noi l'avevamo archiviata così, un tentativo che facciamo ogni tanto così, devi rivelare che ti ha chiamato il Papa e ci credi pure, ma come cazzo ti viene in mente? Una roba pazzesca, come ti viene in mente? C'è una bara davanti a noi, qui nel vuoto dell'emiciclo, è la bara della democrazia. Un decreto ridicolo, un voto di fiducia imposto contro le opposizioni, i carabinieri che minacciano i preti in chiesa, gli elicotteri che controllano chi corre su una spiaggia vuota, proibiti i funerali. La dittatura dei falsi scienziati e del comitato tecnico-scientifico, pieno di contraddizioni. Un partito di governo che si ispira a chi chiamò Umberto Veronesi cancronesi. La confusione delle misure che solo oggi diventano obbligatorie anche qui, quando la protezione civile con Borrelli ha dichiarato «Io non uso le mascherine perché rispetto le distanze». Il 25 aprile dovrà essere la festa della liberazione dal ridicolo regime che ci governa. Allora, eravamo con Davide da Ferrara, signor Davide da Ferrara. No, ma io ho capito perché, ho capito forse perché ha rivelato questa cosa, perché? Ieri, che già, oggi che data è? 24 aprile. Sì, 24, perché c'entra? Ieri che data era? 23, beh che c'entra? Ed era la data che il Papa gli aveva detto come appuntamento, no, siccome non è stato richiamato. Forse un'altra. No, due date gli aveva dato, l'8 e il 23. Siccome lui ha visto che nessuno lo ha richiamato, allora secondo me è verosimile, sì, perché oggi è il 24 aprile. Sì, ma come, allora dico, ma fai un controllo, no? Ma fai un controllo, cioè fai un controllo. Questi... Secondo me lo ha fatto, perché siccome le due date che il segretario di Stato, riascoltiamo un secondo per piacere, questo è un giallo importante, riascoltiamo un secondo le due date che ha proposto la segreteria di Stato Vaticana, sentiamo un secondo, stiamo un attimo. Sentiamo. Andare a ripescare. No, vediamo se ho ragione. Vediamo se ho ragione. A ripescare. Cosa devi andare a ripescare? Nell'archivio. Perché devi ancora montare, incollare e tagliare. Come fai sempre. Artefare tutto. Artefai tutto proprio. Ah. Senti. Ecco, pronto? Senti. Sì, sono di nuovo Monsignor Franchi della Segreteria di Stato Vaticano. Due date gli propone. Senti. Prego. Io non pensavo che il Santo Padre mi ripassasse lei. Mi ha pregato di richiamarla per questo invito a Santa Marta. Ecco, attento le date. Se per lei va bene, ci sono due possibilità. No, ma come mercoledì 8 aprile ore 7. Oppure l'altra. Oppure mercoledì 8 aprile ore 7. Appuntiamo. Giovedì 23 aprile sempre alle ore 7. Hai visto? 8 aprile o 23 aprile ore 7. Sì, la prima possibile è l'8 aprile. Prima il Santo Padre è occupato. Non può occupare. Nel caso con chi posso comunicare, se lascio la mia. Va bene, ci faremo vivi noi. Guardi, mi lasci pure la sua. Quindi ieri era, siccome l'8 non è accaduto nulla, il 23 aprile era l'altra data, allora, si è che sentito dato, libero tirato, si è secondo sentito, me sì, si è sentito libero di dire questa cosa. Ma ragazzi, però ragazzi, ma come cazzo si fa, dai, su, questa è l'indagine che ho fatto in queste ore, sì, però, con il mio pool di inchiesti, però oggettivamente mi dici anche pool. Tu che sei sempre stato a favore di queste sardine, come cazzo si fa? Dimmi, amico, te lo sei volte la sei. C'è una voglia di esibizionismo. No, che va no, oltre la norma. Ma sì, ma come cazzo si fa? Dai, quando ho sentito questa cosa, un po' mi sono emozionato. Ho detto, no, non è possibile, dai, non è possibile servita così. Cioè, servita così. Perché io non volevo dire un cazzo. Perché non era che cazzo me ne frega di una telefonata fatta in cui uno dice, sì, vabbè, ci diamo un appuntamento. Ma se tu mi dici che ti ha chiamato il Papa e ti esalti da questa cosa e tanto roba così, e a quel punto mi spinge alla smentita, mi spinge a dirlo, me l'hai servita così, amico mio, dai, su, ho capito, però vabbè, me l'hai fatta vincere troppo facile, la mettiamo così, è una vittoria troppo facile, come un gol davanti alla... oggettivamente, cioè così, non è una roba complicata, è una roba da un gol di quelli davanti alla porta, così, che ti passano e non puoi non sbagliare, sì, dai, su, dai, è così. Allora, eravamo con Davide da Ferrara che ci poneva una questione fondamentale. la questione della libertà di espressione. Allora, amico mio, Davide da Ferrara, certo, tu puoi dire quello che vuoi, ma è diverso. Ma, è diverso no, dire da, sei un ebreo di merda o dire con quello che ha detto Feltri. Hai ragione che ognuno può dire quello che vuole, ma se ne assume le responsabilità. Ma quello siamo tutti d'accordo. Io ti ribadisco che è incitamento all'odio razziale. Okay? Ma credo questo secondo te, questo secondo te, dicessi rom di merda, non credo, non credo che non credo, secondo no, non credo che ma certo, non credo che meridionali inferiori rientri, no, rientri inferiore da un giudizio razziale, sì, ma non è razziale, non esistono, beh, però ha detto inferiori economicamente, ho capito, cosa di dire che se io dicessi parento, scusami, comunque tu le tue generalizzazioni sui tifosi tutti in un modo, tutti in un altro, sono le tue generalizzazioni, sono le tue generalizzazioni, ma chi, ma tutti chi, 100 persone, 200 persone, che dici, ma chi se ne frega, ma non è rappresentativo del nulla, ma chi se ne frega, male, ciao Davide, però dimmi, ma no, che non so più cosa dire, hai detto, che cazzo vuoi. Mi lasciami parlare, ma hai già parlato una marea. I signori che vengono col braccio teso, che dovrebbero essere fermati, vanno allo stadio e si portano dentro anche i rowdy, ok? Vabbè, ma quello io non posso. No, come quello, come scortati alla polizia col braccio teso. Vabbè, dunque, ma che c'entra? Ma cosa c'entra questo con quello di cui stiamo parlando? A riferire di gente razzista e volevo sapere se per te. Ma stai paragonando uno che fa. Ma certo che sì, ma tu paragonando un caso così a Feltri che dice una cosa che genere in televisione. Va bene, hai già deciso. Sei il giudice che 25 aprile e vivi partigiani, caro mio. Ciao Davide. Ciao Davide. Vivi Duce, il lavoro e la libertà. Ritorneremo prima o dopo. Va, portalo fuori. Via. Bene, grazie presidente. No, Vanni, fuori. Voglio la libertà per andare alla banca e alla porta. Alessandro da Roma, vai Alessandro, dimmi. Ciao. No, io tanto dire, a parte che la gente non ha un minimo cazzo di senso, si facesse una risata, cioè Tiziana rompe il cazzo, il figlio rompe il cazzo più di Tiziana. Primo punto. Punto secondo, di Feltri. Ah, sì, hai ragione. È la quarta volta che parliamo di Feltri. Feltri, cioè, ha semplicemente espresso una sua opinione. Ha detto una cosa da un certo punto di vista sbagliata. Ma cazzo, ma non stava dicendo niente di strano, è normale. Il PIL, il prodotto interno lordo, che porta il nord Italia rispetto a quello del sud, è un'altra cosa. Dai, di cosa stiamo parlando? Ha ragione Feltri, punto. Non è che si incazzano i napoletani, non ha detto niente contro la popolazione di Napoli, non ha detto niente. No, ma infatti non ha detto economico. Sì, va bene, lui ha queste espressioni che fanno incazzare, in cui dice i meridionali non si sentono, non è che si sentono inferiori, sono inferiori. Dunque, ma là sono fa, luoghi lì comuni, fa ma certamente il giornalismo del luogo comune. E lì fa incazzare, poi successivamente dice, quando uno gli chiede ma perché dici inferiori, è perché economicamente i dati sono questi, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma non lo capite il teatro dell'assurdo? Se non capite non è il teatro dell'assurdo, ma quello fa il giornalista, non fa il comico, ma certo, però ma, evidente, ma quello è un giornalista, non è Crozza. È evidente, vabbè, allora Parenzo, è tutto Crozza. Parenzo, adesso arrivo da te perché io sono due giorni che provo a telefonare, perché io voglio che tu mi dia cena sul terrazzino di casa tua e voglio che la allora, tua servitù adesso di colore terrazzo, mi serva da mangiare a tavola. Allora c'era una serie di errori, le portate d'oro terrazzo, ci sono, ci sono una serie di sgrammaticature per le quali la perdono. Uno, non si usano le posate d'oro, non ci sono, non esistono. Semmai si possono utilizzare solo in alcune circostanze sotto piatti d'argento, non è il caso perché lei non le merita. Due, non potendosi fare assembramenti e invitando io a cena soltanto amici, lei non appartiene a questa categoria. Terzo, non esiste servitù, ma semplicemente dei collaboratori domestici. Grazie. Ciao. Ah no, scusa, non è un terrazzino. Terrazzo, l'ho già detto. No, questo è no, perché terrazzino implica che siano pochi metri. The day you move, I'm probably gonna explode. Che voglia di cazzo, mamma mia. Vabbè, ma ci sono c'è? Tanti modi di stare vicino a qualcuno. Io ho un grave problema da quando ho cominciato ad ascoltarvi. In pratica, ogni volta che un amico, un conoscente mi riporta la grave notizia della morte di qualcuno, io sento il bisogno di rispondere: cosa? Quando? E poi subito dopo, quando mi spiega l'accaduto, io rispondo sempre: no, è possibilissimo. Non so veramente come fare, aiutatemi. Ho saputo che è morto Pippo Baudo anche. Cosa? È morto Pippo Baudo. Quando? Oggi, 2 ore fa. 2 ore fa è morto Pippo Baudo, lo diciamo in anteprima. D'infarto, sì, è possibile, perché Pippo Baudo stava molto male, era stato ricoverato 2 volte in clinica. Ma non è no, vero, è possibilissimo. Modo, ma... fatemi sapere di questa cosa, perché non voglio dare notizie false, ecco, assolutamente. Hai già detto. Hai appena detto che è possibilissimo, hai appena detto. Ma perché qui lavora della redazione di Fuori dal Coro? Come funziona questo qua? Sei incredibile, sai che è incredibile. Sei incredibile. Cosa fa? Lavora nella redazione. E Bibbiano? Ci siamo dimenticati di Bibbiano? E Bibbiano? Perché non parli più di Bibbiano? Ma il virus si è mangiato tutto. Il virus si è mangiato tutto. Ma voglio ricordarvi. Il laboratorio non era One, ma era Bibbiano, naturalmente. Abbiamo fatto un'inchiesta con Libero e abbiamo scoperto che a Bibbiano c'era un laboratorio di Covid-19. Non è vero. E domani lo pubblico. Andate a dimostrare il contrario. Andate. Comunque, ragazzi. Questo è un pezzo da vecchia zanzara. Qualche anno fa il povero avvocato Taormina disse una cosa. La sentenza di condanna, purtroppo, dico io, è stata confermata oggi, anzi ieri, credo, dalla Corte Europea. Però ha fatto ricorso in tutte le sedi, eccetera, eccetera. Qui da noi una volta disse: la cosa mi dispiace, 10.000 euro ho dovuto versare, un'associazione per i gay, un'associazione per i diritti dei gay di Bologna, non so, che l'aveva denunziato, anche questa cosa che le associazioni denunciano una persona come se fosse una cosa incredibile. Giusto, comunque lasciamo perdere. Hanno denunciato, offesi dalle sue parole, hanno giustamente denunciato, ragazzi, e hanno vinto la battaglia. Ancora una volta. L'avvocato Taormina disse una cosa qui, l'avvocato Carlo Taormina disse una cosa molto precisa: io non assumerei mai un omosessuale nel mio studio ma ti di pare avvocati. Che lo dico una scemenza simile, ma ragazzi, ma quale torto uno assumerà, ma quale danno uno bravo ha provocato? Non bravo. Ma deciderà sì. Se assumere uno bravo o non bravo, non sulla non base di una discriminazione, non voglio riaprire di che una cosa fa uno ormai sotto le coperte di casa propria. No, fu un'uscita assolutamente tu infelice. Tu lo sai, la cosa impressionante da ricordare, Davide, che ti colpirà profondamente, è che è successa 7 anni fa. 7 fottutissimi anni fa. Ma lui ha già pagato. No, però. Sì, d'accordo, però lascia perdere questo. 7 anni fa, capito? Quanta acqua è passata sotto 7 anni mamma fa mia, è successa, ragazzi, questa roba. Mamma mia, io oggi ho 44 anni. Fa. Pensa quanti anni avevi. Anche 37, tu eri un po' più giovane. Tu ne avevi 50. 7 anni fa. Tu ne avevi 50. Tu quanti ne avevi? 60, 58 ne avevi. Quanti ne avevi tu? 58, quanti ne avevi? Porca miseria. Risentiamo, vai. E intanto io, per esempio, nel mio studio faccio una cernita adeguata in modo tale che questo non accada. Cioè, non ho capito, lei, se uno è omosessuale non lo assume nel suo studio? Ah, sicuramente no, sicuramente ma no. Ma professore, ma questa è discriminazione questa roba no, qua. No, se la discriminazione a me non me ne frega niente. Senti come battagliava, a me non me ne frega niente. Senti come battagliava. Senti mia, come battagliava l'avvocato, mia, professore. Ma certamente non me ne frega niente, io non l'assumerei mai un omosessuale, quello è froce. Cosa ragazzi, vergognosa, ragazzi, cosa, bellissimo, cosa bellissimo. I veri italiani non sono froci, questo è pacifico. Ma poi ci stanno alcuni che dirazzano, e pazienza. Va bene? Che dirazzano. No, non va bene, non va bene manco per niente, infatti. Non va bene. Questa cosa devo dire che è una cosa incredibile. I veri italiani non sono froci. Ma che vuol dire? E voi sapete che io ho depositato nei giorni scorsi una denuncia. Masquerade as being gone. Sai che potrebbe andare ore. Ha cambiato il tono della voce. Vedi come 7 anni fa era proprio più alla, proprio all'attacco anche dei pubblici ministeri, dei PM. Sì, bastava dirgli alcuni nomi. Lui saltava sulla sedia subito. Ma che scherzi? Claudio da Roma, Claudio da Roma. Il suo acerrimo nemico era il comandante della RIS di Parma. Come no, me lo ricordo perfettamente. Ricorderai. Ma semplicemente perché era invitato in trasmissione, lui no, Claudio. Sì, certo. Ruciani, ciao, buonasera. Mi senti? Sì, ti sento, dimmi Claudio. Ciao, ciao, niente, sotto casa. Io sono Claudio da Roma, abito a Viale Trastevere. Mi sono fermato al semaforo prima di casa mia. Se giro a destra vado a casa, a sinistra al box. Vado verso casa distratto, invece potevo andare al box. Faccio la conversione sotto casa, inversione sotto casa e mi ritrovo una motocicletta dei carabinieri accanto. Ho pensato subito, dico, questi mi fermano perché sto in giro. Sì, per forza. Invece questo mi ferma perché ha visto, ti levo la patente, adesso io ti levo la patente, ti sequestro la moto, ti faccio stare 6 mesi senza patente. Ma non ho capito, eri con la moto o con la macchina tu? Non ho capito. Con la moto, la Vespa, cioè la Vespa. Con la Vespa. Allora, perché hai fatto un'inversione? Perché hai fatto un'inversione di marcia? Nel deserto. Vabbè, ho detto, guardi, lei ha ragione. Mi dispiace tanto, ma ero distratto, ma io non hai capito, no. Un collega mio, perché uno che è distratto, gli ho detto, guardi, lei deve stare zitto, lei non deve parlare, lei deve ascoltare. Allora, Cruciani, hanno detto questi bene, qua che sono carabinieri, bene, poliziotti, cos'erano? Carabinieri. Tant'è che io ho detto guardi, io veramente quando vedo i carabinieri sono tranquillo. Sì. Ma nel caso suo lei non deve parlare, lei deve stare zitto, deve imparare ad ascoltare. Questa cosa è andata, mi dia la patente, adesso io la sequestro, la faccio stare 6 mesi. Io non sono incazzato, Cruciani, te parlo così perché non sono abituato a parlare alla radio. La faccio breve, 10 minuti. Sì. Lei deve stare zitto, lei non deve parlare. Allora io ti dico una cosa, Cruciani. Dimmi. Ma non è che ci hanno preso gusto questi? Non lo so, amico mio, non lo so. Posso secondo, dire? Allora sai che ho fatto? Sì. Sai che ho fatto? Ho detto, allora guarda, aspetta, io mi sono fermato sull'angolo, si fermi, io ho girato l'angolo per togliere la Vespa da via Trastevere, lei è scappato. Allora sai che ho fatto? Ho detto, allora aspetti un attimo, ho fatto una fotografia alle moto dei carabinieri, da dove aveva detto che era scappato, e tutto nell'arco di 3 mesi, io ero scappato e mi denunciava perché ero scappato. Allora, questo tipo d'arroganza, quanto dura? Non lo so, Claudio, posso dire, per quello che mi hai descritto, per quello che hai fatto, la cosa era eventualmente di farti una multa per l'inversione, punto. Mi ha detto, ha ragione, lei punto, mi deve multare, punto, ragione. E basta, con gentilezza, con autorevolezza, come è il caso dei carabinieri, con l'autorità giusta, e questo gli rodeva il culo per qualche motivo, amico mio. Devi stare zitto, ho capito, Cruciani. Sbagliato, sbagliatissimo, Claudio. Ma non è che ci hanno preso gusto, allora, questi, no? Ma ancora, ripeti la cosa, non lo so se non ci hanno preso gusto, Claudio. Non credo che ci abbiano preso gusto, non credo che tutti i carabinieri facciano così. Guarda, ti posso raccontare un piccolo episodio. Uno dei primi giorni del lockdown, anzi io credo una 15ina di giorni fa, esco da qui, mi fermo al semaforo un po' più avanti, perché nel deserto uno ogni tanto lo ammetto, i semafori ogni tanto li salto, cioè con la motorino alle 9 di sera, quando vedo il semaforo, mi guardo intorno, tutta Milano vuota, vado avanti, sbaglio, però è così. Allora posso dirti... non ho guardato bene, sulla sinistra veniva una gazzella dei carabinieri. Mi sono fermato immediatamente. Loro si sono bloccati sulla strada, come se ci fosse, capito, una specie di, cioè bloccati davanti a me, dove credo. Bandito, sì. Sì, no, per carità, ma va tutto bene. Non mi hanno manco riconosciuto perché ero col casco, con la mascherina e tutto. E uno di questi carabinieri mi ha detto: "Ma lei, ma dove crede di andare lei?" Ho fatto: "Scusi, ho sbagliato, sono andato qualche metro avanti, non vedevo nessuno." Ma non è perché non è perché è tutto chiuso, adesso uno può fare il cazzo che vuole. Più o meno così, eccetera. Da dove viene? Dove va? Fatto, sì, guardi, sono qua, sono 24 ore, ho lavorato, sto andando a casa. Vabbè, ciao, arrivederci, sei andato. Però l'atteggiamento era quello un po', diciamo, ostile, Claudio. Io credo che alcuni siano così, la stragrande maggioranza siano persone per bene, persone che usano la loro autorevolezza, non c'è dubbio, usano il potere, però poi alla fine credo che non siano come quelli che hai incontrato tu, Claudio. Ma non è che ci hanno preso gusto questi, no? Ancora, ma che c'hai il disco? C'è l'impressione di avere una persona patologica davanti. E chiudo. Ciao, quindi, ciao, ciao. Ciao bello, ciao. Allora, si avvicina domani il 25 aprile. Io penso che è giunto il momento, caro Davide, di fare una telefonata a un nostro amico, un tuo amico, credo che è un tuo amico, un vecchio fascista, no? Un amico di Polegato, il solito vecchio fascista amico nostro, signor Leo. Come vedo già che la notizia della falsa delle frate è stata ripresa da tutti i siti più importanti. Vabbè, quindi quello è normale. Pronto? Pronto? Sì. Comitato 25 aprile qui. Ciao. Ma non mi rompo il cazzo. 25 aprile. Ma anche quando c'è sto cazzo di coronavirus, c'è gente che muore, sta ancora a rompere i coglioni. Ma domani è 25 aprile, hanno dato l'autorizzazione. Ma che si incuri, per me è lutto nazionale. Hanno dato l'autorizzazione ad alcuni. Ma le merda sono dato l'autorizzazione, perché qua non fanno, vanno nelle chiese a bloccare le messe ai preti con quattro persone, poi danno l'autorizzazione, capita, questo, a quelli del Lampi. Questo effettivamente. Questa è democrazia pura. Ma democrazia, adesso non esageriamo, la democrazia per fortuna hanno fatto uscire qualcuno, faranno uscire qualcuno, uno dovrebbe essere contento, no? Qua stiamo parlando, siamo in piena epidemia, c'è una pandemia, allora? C'è la gente che non può mangiare, non può fare la spesa. Io sono chiuso da un mese, ho riaperto, non c'è un cazzo da fare. Dove hai riaperto? Dove hai riaperto? Pagando anche se non prendo una lira. Qua abbiamo un governo di merda, qua abbiamo dei pagliacci al governo, non si rendono conto, capite, cosa stanno facendo. Le regole valgono solo per alcune, per altri no. Qui praticamente chi è di sinistra, Ampi in primis, fa il cazzo della voglia, centri sociali fanno in mezzo alla strada, fa il casino, nessuno gli dice un cazzo, tutto il resto sono merda. Ma non ho capito, dove vorresti andare tu? Dove vorresti andare? Io non vado da nessuna parte, io sto a casa perché non me lo permette di andare in giro, io sto a che lavoro e vado a casa, punto. Ma questa cosa qua, capito, non è giusta. Non è giusta, Parenzo, non è giusta, hai capito che non è giusta, dice Leo, signor ma fascista Leo. Ma che cosa? Signor fascista Leo dice che il fascista se ne dovrebbe stare zitto, il fascista dovrebbe avere l'orgoglio, la dignità di stare zitto. Il fascista, Parenzo. In nome della libertà Parenzo. Che gli abbiamo dato pure a lui, capito? Cioè lui dovrebbe ringraziare perché grazie ai partigiani la libertà. I partigiani ti hanno dato la libertà. Ormai i nostri nonni ci hanno dato la libertà, che hanno combattuto. Esatto, la libertà. Quindi tu a me non mi hai dato un cazzo, Parenzo. Ma io ti voglio dire una cosa: ma secondo te è normale che si veda tutto, addirittura di fare le messe, e si sono permessi di entrare in piena messa davanti a un prete a bloccare la messa, e posti con la protezione all'Ampi di andare a manifestare? Ma di cosa stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma di cosa stai parlando tu? Ma di cosa stai parlando tu? Per alcuni. E infatti nessuno viola le regole. I partigiani mica violano le regole. Ma tu sei favorevole al fatto che l'Ampi va a manifestare. Ma io sono in pochi, vuole cantare, ma lui vuole cantare bella ciao. Lui vuole cantare bella ciao dal balcone. Ma bella ciao, che cazzo canti bella ciao? Cantala anche tu, cantala anche tu. Bella ciao con 25.000 morti. 25.000 morti ne stanno morendo ancora. Spera che lo arrestano, si avvicina. Quando arriva la polizia da te. Combattenti di terra, di mare, dell'aria. Scusa direttore, ma tu il 25 aprile l'hai mai festeggiato? No, non te ne frega un cazzo. Mai, perché non mi interessa. Ma c'è una cosa che ti interessa, una? Sì, la figa. Ehi, e quello che dite non ci frega un cazzo. E a me non me ne frega niente. Famo un po' come ci pare. Se mi fate una domanda e poi io quando rispondo non vi va bene. Non ti inquietare, se no ti mando dalla professoressa. Basta, signori, buonasera, arrivederci. No, Vittorio, andate no. A fare in culo tutti quanti. Vabbè, ma per l'amor di Dio, ma devo parlare. Di quello che dite non ci frega un cazzo. Famo un po' come ci pare. Bevo una di troppo, poi divento un altro. Di cose serie non riesco a parlare. Ma c'è una cosa che ti interessa, una? Sì, la figa. Sono parole demoniache. Ciao ragazzi, Longoni mi ha detto che quando c'è lui riesco a chiamare. Comunque ragazzi, ragazzi, è abbastanza incredibile. Sai come alcuni giornali avevano già titolato la vicenda di Santori? Clamorosa rivelazione della sardina. Sì, in campagna elettorale, in campagna elettorale, il Papa incoraggiò le sardine ad andare avanti. Mamma mia, come diceva una volta il mitologico, è vivo, mica è morto, Emilio Fede, che figura di merda, dai. Però su, appunto, è strano questo silenzio, questo silenzio vaticano, quindi vabbè, questo è stranissimo. Ma questi sono sconcertati, hanno pensato che l'ha fatta sul serio, nessuno ha avuto il coraggio di dire ma veramente, scusi, forse ma veramente così, la vergogna ristretta ma sì, dal Santo Padre, probabilmente quelli avuto, che collaborano con lui non avevano il coraggio di chiedere. Non hanno avuto il coraggio, ma veramente ha chiamato Santus svelato che invece è tutto nato dentro, come dire, le segrete stanze della zanzara. Io non escludo che domani un gruppo di guardie svizzere, un manipolo di guardie svizzere, venga a Milano in via dove abiti tu, adesso lo diremo ovviamente, al numero civico, suonino al campanello e dicono: scusi signor Cruciani, lei sì, venga con noi. Ma perché? Io non escludo che le guardie svizzere domani te vengano a prendere proprio a casa, direttamente. Ma direttamente. Ovviamente ci sarà qualcuno che mi difenderà, naturalmente. Ci sarà e basta, ci sarebbero 4-5. Chi ci sarà? Fermo, chi che c'è Michele Caruso, ragazzi. Che cazzo chi vuole Michele Caruso? Te? Ma chi che vuole Michele Caruso da noi? Eccoci qua, ciao. Che vuole Michele Caruso? Quante. Adesso non chiami più nemmeno al volo per fare finta di essere no, perché non ce la fa. Di cornuto di Parenzo. Senti, non proprio che è stato preparato da Vittorio Feltri, ospite da Giordano l'altra volta fuori dal coro, è veramente deplorevole, è un obbrobrio. Vabbè. Che grida ma adesso facciamo diventare opinionista pure Michele Caruso con la vita mobile, cioè fammi capire, cioè adesso è diventato un columnist pure Michele Caruso quartiere Prati in Roma quando sei in collegamento con la panellata, cioè, ma io voglio dire, ma un pirla simile ma può diventare editorialista della Zanzara? Quanti ne hai? Ho poco po' di te stesso che non ti amo. Io vorrei parlare con Cucciaccio, ma uno che passa le giornate a telefonare nelle trasmissioni, uno che passa può essere considerato credibile? No, vabbè. Aspetta, una specie di stalker, comunque Michele, che allora, cazzo Vittorio vuoi? Dimmi. Sì, volevo dirti, Vittorio Feltri, che tra l'altro è oltre che un vecchietto, direi anche oltre che ad essere uno che ha poca saggezza, pure impacciato. Michele Caruso, allora, funzioni meglio quando fai gli scherzi a fare l'opinionista antifeltriano in nome del suo. C'è Parenzo che mi rompe le scatole. Ma no, ma tu che c'entri? Tu sei un avanguardista, ma che ti frega? Che vuol dire connettere? Devi andare dritto al punto, invece non sai dire niente. Feltri adesso non venderà alcuna cosa. C'erano pochi quelli che compravano il suo giornale al sud, tant'è vero che ci sono diverse edicole che si rifiutano di Michele Caruso, cosa vuoi stasera? Ma come si è permesso di quale che poi dice che hanno strumentalizzato le sue parole perché lui voleva dire soltanto David, io ho l'impressione che questo non abbia, scusa un attimo, David, io ho l'impressione che non abbia un cazzo da fare Michele Caruso, nulla da fare, è tutto il giorno poverino solo. Paolo, provincia di Vicenza, avanti tutta. Attenzione, dai. Avvisiamo gli amici di Libero Quotidiano però che hanno messo in home page la notizia delle sardine, che in realtà devono aggiornare il loro sito perché loro hanno scritto: sardine, mi ha chiamato il Papa, Santori, confessione inaspettata, dopo il PD anche la Chiesa benedice le sardine. No, cari amici, adesso dovete aggiornare la notizia. Vai Paolo, dimmi. Ecco, allora grazie innanzitutto di avermi chiamato, grazie. Dimmi, no, ma l'hai chiamato tu veramente, non io, hai chiamato tu. Pronto? Sì, dimmi. Ecco, ma io prima ho chiamato, poi mi avete richiamato. Sì, funziona così. Quanto qua. Quanto tempo posso, perché avrei qualcosa, un minuto me lo dai? Ma dimmi Paolo, dimmi, no, hai allora, già perso tempo. Tornando al discorso di Feltri, no? Dimmi. Quando parlava che i sudisti sono tutti, come dire, persone che non hanno voglia di lavorare, io ovviamente, perché parlo sempre di prima persona, il nord ha devastato il sud facendo fabbriche bidoni. Io ovviamente a Lavello, San Nicola di Melfi, ho rinunciato a un progetto da 5 miliardi. Sì, ma chi se ne frega, Paolo, non me ne frega niente. Cosa vuoi dire? Qual è il concetto fondamentale? Qual è la cosa fondamentale che vuoi dire? Volevo, invece di spiegare i cazzi tuoi con le lire degli anni 70-80. Scusa, io sono ma voglio dire una cosa, mi permetti? Dimmi. Ecco, sono di Bassano del Grappa. Questo ci vuole comunicare che è di Bassano. L'ordine dei giornalisti. Ma non me ne frega niente a me, Stefano dalla provincia di Livorno. Vai, Stefano, dimmi. Buonasera, Costruzione, buonasera Parenzo. Dimmi. Ieri sono stato contattato da una settimana di alberghi. Ho fatto un Non si capisce nulla. Io non sento bene. Giuseppe Reggio Calabria, vai, Giuseppe Reggio Calabria. Ciao ragazzi, buonasera. Dimmi. Allora, ma ciao, io leggevo questa cosa della... Io sono un comunista, Ma che vuol dire che sei un comunista? Non vuol dire niente. Vabbè, sei comunista. Fammi parlare, no? Sei comunista. Per capire, non mi conosci. No, sono comunista. Vuol dire essere comunisti, no. Cioè è una cosa pazzesca. Vuol dire appartenere a una ideologia precisa, il marxismo. Mi fai parlare, Cruciani, o no? Il marxismo, d'accordo. Allora leggevo questa cosa dell'Ampi che è veramente ridicola. Io te lo dico da antifascista. Ma lo dicono in molti, ma lo dicono molti. Non è che... il 25 aprile, Cruciani, tu mi capisci quello allora, che io sono, dire. Io sono ormai sono per la libertà. Per l'uscita, uno da casa può uscire con tutte le sicurezze, eccetera. Però oggettivamente, dopo aver detto no alle messe. Con la polizia che entra dentro, i carabinieri. Ma non c'è nessun assembramento. In teoria nemmeno a fare la messa c'è l'assembramento, Non ci sono le masse in piazza con la il delegato dell'Ampi che deporrà una corona. L'Ampi ormai è un'associazione di, come dire, dirigenti degradati del PD e della CGIL. Ma questo non lo so chi è, chi non è. Non mi interessa, Giuseppe. Il punto fondamentale è un altro, che rispetto ad altre cose sono stati utilizzati dei metri differenti. Ma non c'è nessuna manifestazione, è una fake news. Ve lo dimostrerò lunedì quando ci saranno le foto. Nessuna manifestazione. Ma lo stesso in chiesa, allora uno può andare distante a fare la messa, state e invece diffondendo sono notizie carabinieri, false, dai. Non ci sarà nessun assembramento, nessuna manifestazione. Ciao, ci saranno una o due persone dirigenti dell'Ampi che deporranno una corona. Ora ci vogliamo lasciare questo venerdì però con un po' di David, cioè è venerdì sera, abbiamo parlato di tutto. E Santuzzo che ha fatto quella figura di come sappiamo, mamma mia, eccetera. Cosa vuoi fare adesso? Dicendo, non dire venerdì sera, perché lo fai tutte le sere a quest'ora, quindi non dire. Voglio fare un collegamento con gli Stati Uniti, dove c'è sul suo letto, credo anche con le mutandine e con il reggiseno, quasi nuda, la nostra amatissima dagli Stati Uniti, Michela Morellato. Eccoci qui, Michela, come stai? Ciao ragazzi, bene. Io sono la vostra consulente sessuale della La consulente sessuale, benissimo. Oggi Trump ha detto, caro Parenzo, lo sai che uno può, poi ha un po' smentito, un po', che può tranquillamente. Lo sentiamo Trump, dai, fatemi sentire Trump, il trampone. Si può guarire dal coronavirus, perché no, con il disinfettante, anche con gli ultravioletti. Sì, per un bel disinfettante, una cosa così. Però vai, non penso che sentiamo trampone, questo, aspetta, vai. Sentiamo trampone, vai. Supposing we hit the body. Whether it's ultraviolet or just very powerful light. And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Beh, l'ho trovato straordinario. Anche qui è puro teatro. Dai, il disinfettante e gli ultravioletti. Il disinfettante e gli ultravioletti, dai. Io non ho capito una cosa, Morellato, ma che succede negli Stati Uniti? Tu che sei nuda a letto, d'accordo, in questo momento stai facendo sognare un po' di persone, no? Con queste... Tu sei anche abbastanza popputa, no? Mi sembra di ricordare. Nel senso, qua negli Stati Uniti c'è veramente un caos pazzesco, perché la gente non fa quello che vuole, non c'è nessuna... Non è niente vero che stanno facendo le restrizioni. Ma dipende dove, tu sei in un posto dove magari non le fanno, a New York... In Colorado non gliene frega un cazzo a nessuno, chiaro. Ma neanche in Florida, comunque sono tutti in spiaggia. Ma sì, ma infatti è la cosa migliore. Alcuni stati prendono dei provvedimenti, altri ne prendono altri. Tu hai paura di prenderti il coronavirus, cara Michela? Ma non per me, però non mi piacerebbe sapere, insomma, che che io posso trasportarlo e far del male agli altri. Comunque esci poco, esci poco? Esci poco? Sì, esci poco. Sì. Ma allora, tu mi hai scritto ieri sera, mi sono messa nel letto come una schiava sottomessa. Questo è molto interessante. Che vuol dire questa cosa qua? Raccontaci questo episodio della tua vita, della tua private life. Questa quarantina mi sta facendo imparare molte cose su me stessa, sulla mia sessualità. Sì. Pensavo di essere una donna molto dominante, mi piaceva dominare l'uomo, eccetera. Però invece io ho detto, ma quasi quasi mi metto così a 90, sì, e gli dico, dai per favore, vieni qua dietro e fammi tua, la tua schiava. Cioè tu hai detto a tuo marito a un certo punto ieri sera quando i bambini erano a letto, magari, no? Per forza, quando i bambini erano a letto hai detto a tuo marito, io mi metto qui da bella schiava sottomessa. Quali parole hai usato in inglese? Dillo, come si dice? Dillo, di come hai detto in inglese le espressioni. I wanna be yours. I wanna be yours. I wanted that you use me as your slave, as your whore. Io ho anche detto whore, che vuol dire mi fai impazzire. Ma aspetta, dimmelo di nuovo in inglese, ti prego. David, cerca di capire questa cosa straordinaria. Allora, I wanna be yours. No, I wanna be yours. Come dire, no, fai la voce esatta con cui l'hai detto, no? Adesso come lo dici? Amore, come here, I wanna be yours. I wanna be your slave, you know, make me yours. Io ho parlato così e lui era tutto contento, non se l'aspettava. Ma come eri già? Eri già caldissima per qualche motivo? Avete già fatto qualcosa? Sì, non lo so, ma ho dei momenti che ho come un demone. Ma scusi, con la stessa voce. Non è un demone. Mi scusi. Ma gli hai detto, I'm very wet. Come gli hai detto? Come si dice? Come si dice in inglese? Sì, I'm throbbing for you. I'm throbbing for you. Che vuol dire esattamente? Con la sua voce sensuale. Il mio marito dietro la porta che ascolta, secondo ma come, me. Che ascolta, si sta magari spippettando dietro la porta. E ricordiamo sempre che il marito è un soldato americano. Ah, magari perché a te piacciono queste cose. Il marito che ascolta dietro la porta non ti accontenta mai. Diciamo, tuo marito da questo punto di vista, diciamolo, non ti accontenta potrebbe, mai. Potrebbe, scusi signora, io sono usare questo poco tempo che abbiamo insieme. Possiamo usare questo poco tempo che abbiamo insieme per utilizzare, diciamo, le sue porcate per mandare un messaggio ai capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea. Cioè lei con la sua voce potrebbe dire we want Corona Bond. Noi vogliamo i Corona Bond, per favore. Sì, magari i capi di Stato e di Governo. Corona Bond. Give me Corona Bond on my ass. No, vabbè, adesso quello non c'entra niente, quello non c'entra nulla. E poi io comunque ogni volta che sento Corona, a me viene semplicemente Fabrizio Corona, non lo so perché. Ti eccita anche un po', cioè, Fabrizio Corona, a te, ti eccita anche un po', diciamo, te lo faresti. Ma sai che non è un bel ragazzo. È il mio tipo. No, non è il tuo a me piacciono tipi come Parenzo, capito? Ti faresti sculacciare da Parenzo. Ma cosa dici, signora mia? Ma che dici, signora? Ti faresti sculacciare, no? Comunque Parenzo, complimenti, perché ha una bellissima moglie Parenzo. Sì, è abbastanza, la cosa è abbastanza di dominio pubblico. Però scusami un attimo, cara Michela, dunque a un certo punto ti sei messa così, diciamo a 90, come hai detto tu, tuo marito lì a quel punto... Sì, poi gli ho detto, dopo un po' gli ho detto... Sculacciami. Come hai detto in inglese? Come si dice? Slap me, please. Come? Ripetimelo. Slap me. Ah, gli hai detto così. Ma ti ha sculacciato alla fine o no? No, l'ho fatto, ma era molto imbarazzato perché non capiva che cosa mi stava succedendo. Infatti, per un momento ho dovuto riflettere tra me e me, dico, ma cosa mi sta succedendo? E ho capito perché sono sempre così birichina e ho bisogno di un uomo che mi prende per i capelli, mi dice fai la brava, cioè fai che la ti brava, tratta, che ti tratta, non l'ha mai fatto nessuno, che non l'ha mai fatto, ma non l'ha mai fatto nessuno, adesso non esageriamo, ci sarà stato qualcuno che ti ha trattato male, che ti ha trattato un po' come si fa ogni tanto, con un po' di dominazione, con che ti ha tirato i capelli o no, mai nessuno. Sì, ma non è che ci credevano, capisci? Io voglio uno che ci crede. Tu dici l'hanno fatto apposta, cioè tu vuoi un dominatore, vorresti un dominatore vero? Mi piacerebbe tirarlo fuori a mio marito, questo dominatore, ci sarà dentro lì da qualche parte. Beh, sì, esistono, e tuo marito però esistono in giro, tuo marito non lo so, perché tuo marito è refrattario a queste cose, ma ieri sera quando è successa, ma dov'è, ancora dietro la porta in questo momento? Non lo so, ma infatti non mi... perché prima si è messo qua, ha detto posso stare qua ad ascoltarti, gli ho detto no, vai fuori. Ma spiegami una cosa, come è proseguita poi in inglese? Cioè, c'è un colloquio eccetera oppure c'è semplicemente poi un rapporto sessuale? No, cioè... In che senso, scusa? No, voglio dire, dopo che gli hai detto sculacciami, sculacciami, lui ti ha sculacciato, ma era, eravate già, lui era già nudo? Sì, sì, è stato io ero nuda completa, lui si è velocemente, perché ti spiego, c'è quel gioco che stanno facendo che va di moda adesso, dove la moglie o la fidanzata va nella camera mentre il marito non sta facendo niente, nuda, gli fa il video della faccia del marito che si sorprende a vederla nuda. Allora stavo guardando questi video simpatici, ho detto quando entra... faccio anch'io il video, sono a 90 nel letto nuda e solo che poi alla fine mi è venuta voglia e volevo farmi una grande scopata. Sì, ma ho capito, ma non ho capito lui alla fine è stato all'altezza o no della situazione, cara Michela? Questo è interessante. Ma sì lui è sempre all'altezza, anche perché ti ho detto che è ben dotato, quindi una che ci sa giocare, che sa fare, riesce, capito, a... Però non è come vorresti, cioè non è così dominante, non ti ha preso per i capelli, non ti ha sbattuto bene, diciamo la verità, diciamola tu, tanto puoi dirlo in italiano, non capisco. È la prima volta che abbiamo fatto questa prova, adesso facciamo altre prove, io voglio tirare fuori l'animale che c'è in lui. Giusto, è giusto tirare fuori l'animale che c'è nei propri compagni, mariti, eccetera, eccetera. Ma io non ho capito, alla fine, ieri è stata soddisfacente o no la cosa? Questo è interessante capire, cioè alla fine ti ha tirato i capelli, così, oppure così, era un po' tentennava, e era un po' debole da questo punto. No, ma è stato molto bello prenderlo così da dietro, in modo cosa dice? Come schiava sottomessa, sì, mi è piaciuto molto, è stata una cosa diversa dal solito. Lo vedi, alla fine le coppie si ritrovano. Le coppie si ritrovano su queste cose qui, caro Davide, è inutile stare a chiacchierare, le coppie si ritrovano su queste robe qui, il soldato americano e la signora italiana, senti l'elicottero, e la signora signora, la ragazza italiana, Vicentina, la signora Morallato, presa da dietro, tirata per i capelli, un po' malmenata, un po' picchiata così, ragazzi, anche questo è il 25 aprile, Michela, ti saluto, italiani! Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Il poveraccio sta prendendo il sole, la polizia su quegli scooter.